del 23 ottobre 1622, i nostri impavidi eroi escono fuori dal tempio e ditemi se mi dimentico qualcosa, perché questo proprio l'ho scritto di merda, disclaimer. E escono dal tempio, cerchiamo di capire insomma cos'è che sta succedendo, cerchiamo di capire se possiamo rimanere la notte. Avevano già organizzato tutto, veniamo trattati come ospiti, ci danno il cibo, posto dove dormire, un metro quadro per metro quadro, Nibel si è trasformato in un cubo per starci. Rimaniamo in tema. Hai dimenticato la parte in cui Nibel ha a che fare con Adelfo, che è tipo... No, era in quella prima. No. Era in quella prima. No. In quella prima. Ah, sì, perché abbiamo fatto, sì, abbiamo fatto la sessione a un giorno di distanza, I guess. Abbiamo fatto il riassunto quando abbiamo fatto la seconda. Non ce n'era bisogno, probabilmente. Non c'era bisogno, la sera dopo. Fai il riassunto di entrambe. Sì, sì, sì. Vuoi che faccia io il riassunto? No, ci sono. Ok, posso, dovevo semplicemente leggere. Ma sì, dai, che vi ho detto che l'ho chiamata un ebreo, un depresso, un nero e due pazzi. Hai ragione. Però sono molto contento di averlo sentito di nuovo. Ok, a posto. Siamo a posto, devo rifare veramente? No, volevo sentire... Ok, a posto. No. Veniamo ospitati per la notte. Mif decide di andare subito a letto. Adone e Nibel hanno un discorso esistenziale, ovvero Adone che sembra stralunato, fuori di sé, a quanto pare, da quello che ho capito più o meno, è che stava cercando magari una sorta di rassicurazione. Nibel si è confrontato sul fatto se esistiamo per davvero, se siamo una finzione di noi stessi, e soprattutto si è raccomandato che se mai dovessero ammazzare Adone ha richiesto di portare il lavoro a termine come si deve. Sì, Adone, lo faremo sicuramente. E comunque, cioè, è una richiesta, ci sta, cioè, nel senso, non... infatti, sì, ma io Sara non ho fatto obiezione. Succede questo, si incontrano anche con Adelfo, si decide di ammazzare in qualche modo la Mucheros, però ci manca un tassello, che è la bambina dalle umili origini. Non abbiamo bambini e purtroppo siamo un party dove le umili origini sono di genere maschile, ovvero di Nibel. Però c'è la gender machine, possiamo trasformare Nibel in una bellissima ragazza. C'è Cici e c'è... Fast forward alla notte, dormiamo tutti, fanno dei sogni abbastanza particolari, che siano suscitati dal luogo o dal destino, non lo sapremo mai. Il fato. Bene. Vado in ordine. Adone sogna il nucleo di questo tempio. Dentro al nucleo vede questa stella marina gigantesca che batte sulle pareti, che ha questo sorriso un po' strano, e che appunto diceva: no! Eravamo così vicini! Eravamo così vicino! Una cosa di questo genere. Mif incontra nuovamente, sempre dei suoi stessi sogni, l'uomo che ride, le chiede di portare a termine la missione che le è stata assegnata, e Mif ha detto: certo, lo farò. E poi questo qua si trasforma in Brooke. No, pregheremo di non fare mai più questa cosa, è stato molto creepy. Andiamo avanti. Nibel incontra Heracles. Si chiamava Heracles, ok. Che si scopre essere il fratello della Mucheros, così, en passant, che è stato ammazzato dopo aver dato come regalo di compleanno un biglietto, un buono pasto per il veggente amico della strada di fronte. L'ha fatta lui la... Sì, l'ha fatta lui. L'ha fatta lui. Ok, perfetto, a posto. E niente, la predizione non è stata molto gradita e quindi è stato ammazzato per questo. Quindi Nibel ha la conferma che sarà l'unico modo per effettivamente uccidere la Mucheros, perché a quanto pare questa donna è inaffrontabile in tutti gli altri suoi ambiti. Infine, chiudiamo con il sogno di Lieto, dove incontra Arva, tranquillo, che non spacca scacchiere, che non è fuori di testa, un chill guy. E che gli racconta della storia un pochino sua, dell'uomo che ride, di come lui all'inizio non era un dio, non aveva a che fare con il nostro mondo, e l'uomo che ride lo ha imprigionato in questo loop che si ripete sempre, dove poi è diventato il dio del tempo che conosciamo adesso, Arva. E niente, semplicemente gli ha detto che dentro, a Lieto, ha detto che dentro al nucleo troveremo comunque un bel enigma, se mai ci dovremmo entrare. E ci svegliamo nel 24 ottobre 1620. Abbiamo musica di scoccio. Come vi ho spesso detto, due di voi non hanno bisogno di dormire. Per cui sono i primi a svegliarsi, o meglio, a terminare quella specie di sogno lucido. Chiedo a Lieto e ad Adadone di rollare un D20. Così debotto, non ho manco detto così. D20, come sì, sapete, ma... esiste, ma non è nulla. È sì, solo sì, per vedere il numero. Hanno aggiornato la pagina di Roll20? Sì. Che fastidio. Molto. Ah sì? Che hanno fatto? Sì, hanno anche sloggato tutti quanti. A me no. Vabbè. Per una volta. Io ho fatto 4, quindi credo che andrà prima di ecco qua. Abbiamo 3 possibilità su 20. Cioè. 4 come gli anni di Cristo meno 29. Vabbè. 3 prima. 11. Inizia Lieto. 11 prima. 4 come un terzo degli anni di Cristo. Lieto. Hai passato un paio d'ore, non tutta la nottata, a fare quello strano sogno nel quale ti sono state dette delle cose e hai la sensazione di essere il primo a svegliarti dal silenzio che ti circonda. Tant'è che dall'interno della celletta non lo vedi, ma non filtra alcuna luce dall'esterno, quindi hai motivo di credere che sia prima dell'alba. Ok. Ultima cosa, Lieto e Adone hanno tutto al massimo, Nibel e Mif rolleranno con tiro propizio quando è il loro turno per vedere quanta roba hanno. Vado a dare i croccantini a Kiri nel frattempo, fate pure. Prego Lieto. Lo si stiracchia. E esce fuori all'aperto. Perfetto. C'è un piccolo corridoio che ti separa dall'esterno e come ti dicevo è completamente vuoto. I tuoi passi rimbombano sul pavimento metallico di quel materiale bronzo che circonda tutta la struttura. E l'esterno ha una specie di scala antincendio, cioè una scalinata di metallo e con una piccola terrazza dalla quale puoi vedere tutta la montagna e anche oltre. E però l'80% del tuo spazio visivo è occupato da Senic, che è ancora in preghiera, è ancora immobile come l'avete lasciato il giorno prima. Effettivamente non è ancora sorto il sole. Buongiorno. L'immobile creatura non risponde. Vado a vedere se respira, tipo se è ancora vivo. Senic? In effetti, parestando Senic è un pesce gigante a 40 km di distanza. E non... o hai delle mani veramente molto lunghe, oppure... La creatura sembra respirare, in effetti, ma i suoi movimenti sono così lenti che è solo chiudendo gli occhi e riaprendoli che riesce a vedere la... Ok. La differenza. E non... Sono il primo in assoluto a svegliarmi. Sì. Ah, vabbè, è tempo di entrare nel tempio. Scendi la scalinata di metallo e davanti a te c'è un gigantesco portone, anche questo in bronzo, che ha una specie di disco che sta girando molto lentamente. E vedi chiaramente che c'è un segno triangolare che entra perfettamente in una parte... centrale, diciamo, del meccanismo, come per dire, cioè senza che te lo sto a fare indovinare, quando arriva a quel punto si apre. L'avevo intuito. Ok. Sì. E quanto manca? Più o meno dalla velocità un'oretta circa. Ok. E appoggio la mano sul meccanismo e provo a usare Future Glimpse sul meccanismo. Mentre Future Glimpse non ha nessun effetto. Eisten, cioè... scusami. Non... Esatto. Mentre... Sì, esatto. Casti direttamente la spell. Speed up. Sì, Eisten. Speed up è su te stesso. Eisten pure. Su te stesso. Ma l'importante è l'interazione. Ovvero, quando fai passare la magia del tempo attraverso il tuo corpo, la tua essenza, questa cosa viene inserita all'interno del meccanismo e lo riempie come un fluido. Cioè, non vedi niente perché è energia magica, ma riesci a percepire che si sta interamente riempiendo la porta. Il meccanismo finisce di girare e la porta si apre, rivelando non il nucleo del tempio, ma il corridoio quadrato interno. E puoi entrare. Allora era facile, e apro la porta. Davanti a te l'interno del tempio vuoto, con gli innumerevoli libri che occupano tutte le parti del tempio, una gigantesca porta quadrata con un meccanismo molto più complesso di questo, ma in un qualche vena simile, e Adone, cambio di scena. Buone. Ti sei svegliato dopo una strana notte. Adone si alza e esce immediatamente dal cubicolo. Ti ricordo che ho cambiato una spell. Sì. Ok. Detto questo, si guarda attorno, molto ancora trepelato da ieri, cioè non ha cambiato la sua aria di pazzia. Ho una domanda molto stupida. Quanto casino fa sul marmo? Lui che cammina. Voi camminate su un, come dire, un ripiano di metallo. Sopra, ah, okay, non camminate direttamente sul marmo del tempio. Okay, quindi fa perfetto. Tang, tang, tang. Adone cerca di camminare senza far rumore. Poi quando arriva alle scale corre giù. Lieto, hai lasciato la porta del coso aperta? O l'hai chiusa? No. Ho chiuso dietro di me. Ok, quindi Adone semplicemente devi aprire la porta, scendere le scale e ti fermi per un istante durante la tua discesa delle scale a guardare Senic con le mani incrociate. E oltre questa figura, dall'altro lato, c'è il portone del tempio aperto. E questo non è normale. Cambio di scena. Sei lieto? Sì. Perfetto, sei riuscito a rinquadrare la carta. Sì, no, sto buttando la carta, why not? Hai la sensazione di non essere solo. Beh, ho la spacca e cerco di aprire nella solita maniera la seconda porta. Prima che tu riesca a appoggiare la mano o fare qualunque altra cosa con la porta, senti dei frusci provenire dal corridoio. Il corridoio quadrato che circonda il centro del tempio. No, non c'è neanche un posto dove posso tipo nascondermi? No. E puoi metterti a ridosso di una libreria, ma sei comunque visibile. Attendo con la mia faccia di bronzo. Ma attendi cercando di fare le robe o aspetti? Cioè, sì, nel senso, ci sarà una faccia di bronzo quando qualcuno lo beccherà, però è tipo... Da uno dei lati del corridoio, il lato sinistro, quello dove ci sono le pergamene nuove, diciamo, emerge una cosa nera. Dall'alto, Lieto è 1,80 m qualcosa? 1,80 m... 1,90 m esatto. 1,90 m, sì. Ok. 1,90 m esatto. Diciamo 15-20 centimetri più in alto della tua testa. Sbuca fuori dal muro una cosa nera. È una matassa? È un essere? È troppo buio per vederlo. Tu vedi letteralmente un oggetto di questa forma uscire fuori dalla porta. Ok. Posso fare un roll, cerca di capire se è qualcosa di magico. Fai un roll di percepire. 10 tondo. Hai una strana sensazione, nel senso che i tuoi occhi vedono chiaramente qualcosa e hai la sensazione che tutti gli altri sensi ti stiano dicendo che non c'è niente lì, compreso il tuo sesto senso magico. Ok. Mi giro e continuo a cercare di fare la cosa che stavo facendo. Adone, puoi entrare nel tempio. Corro. Davanti a te, di spalle, c'è Lieto con entrambe le mani appoggiate alla porta principale del tempio. Ok. Domanda. Adone non è stupido. Safe to say, sa che ha aperto lui la porta, anche vedendo sì. quello che sta facendo. L'ha trovata già aperta. Either way, ti chiedo, posso fare che Adone casti Time Bubble nel momento in cui la porta si apre? Puoi prepararti questa cosa. Ho una domanda, ma poi Adone può attraversarla senza fermarsi, sta zona? O no, ci finisce anche lui dentro? Tu crei una bolla larga, mi pare, 2 metri di base, e quella bolla è time stopped, quindi devi girarci intorno. Ok, allora faccio questa cosa. Perfetto. Stai alla larga, quindi. Dimmi. Posso chiederti un'altra cosa? Dimmi. Posso fare che prima di questo casto luck counter su di me? O è too much? Puoi. Però per utilizzarlo dovresti comunque fare 9 azioni nel frattempo. Cioè per usare il critico garantito. Non credo di avere tutte quelle magie. Spammo Future Glimpse. No, aspetta. Scusa. Posso castare Future Glimpse e vedere cosa succede se io non faccio nulla? Certo. E andiamo subito a vederlo. Lieto. Aspetta, però poi posso fare la mia azione. Sì, perfetto. Stiamo registrando il futuro. No, il rolla Adone, rolla nascondersi. Yoppa! Non c'hai tanto. No, appunto! Basta? Assolutamente no, c'hai più zero. Neanche per sbaglio. Lieto, ti accorgi che c'è una presenza alle tue spalle. Stavolta... Mio. È Adone. Non sta facendo un gran lavoro. Ciao Adone. Adone. Cosa ci fai qua? Credo che entrambi sappiamo perché siamo qua. Credo. Io ho un lavoro da fare, datomi dal principale, dal grande signore. Anche io ho un lavoro da fare, dato da qualcuno di, credo, più importante. E qual è il tuo lavoro? Vedi che Adone ci pensa e si ferma e dice: beh, credo che il mio lavoro sia già concluso, sono arrivato tardi, evidentemente. E indica a te che stai facendo. Dentro c'è un... è un tempio di erba, ci sarà probabilmente dentro un altro bel indovinello. Andiamo a farlo. Volentieri. E rimane, cioè, fa per avvicinarsi lentamente intanto che tu che fai. Ah, mi raccomando, stai attenta a quella cosa e indico il punto dove non c'è assolutamente niente. Guardo. E non c'è nulla. Guarda, dico... Sara mi, sta facendo, mi sta scrivendo che è in bagno. E no, no, continuiamo, però non sa quando torna. Ok, vabbè. È una situazione di merda. Guarda dove è indicato e dice... Ah, interessante. Perché era un po' sorpreso, confuso. Sappilo. Se sentivo okay. qualcosa di strano, sappilo che c'era. Ok. La porta, dopo un po' di tempo, inizia a muoversi. Il meccanismo inizia a girare e quel meccanismo era immobile, per quanto ne sapevate. E tutte le componenti meccaniche che lo costituiscono iniziano a far rumore. Un rumore simile a quello che avete già sentito negli altri tempi di Arva, solo che in quei casi non c'era nulla di visibile, mentre qua vedete proprio gli ingranaggi muoversi e animarsi. E infine la grande porta quadrata si apre, rivelando il centro, che è un cubo, di questo tempio. Avete la sensazione che ci sia qualcosa di sbagliato. Il puzzle riesce a percepire i frammenti del puzzle, lieto. Riesce a percepire che qualcuno aveva cercato di fare questa cosa, ma è andata in pezzi, in qualche senso. E al suo posto c'è solo una cosa molto strana che vado a leggervi. Ci sei, Adone? Ci sono. Siete all'entrata della stanza, dall'altro lato, il segnatempo che vi ha accompagnato, fatuo simbolo dell'avventura che avanza, appare ora davanti ai vostri occhi, reale e tangibile come i denti sfiorati dalla lingua. Secondo dopo secondo i numeri procedono inesorabili. Tac, tac, tac. Fate un passo nella sua direzione e il numero torna indietro di 3, 5, 7, 11 secondi. E siete all'entrata della stanza, dall'altro lato. Il segnatempo che vi ha accompagnato, fatuo simbolo dell'avventura che avanza, appare ora davanti ai vostri occhi, reale e tangibile come i denti sfiorati dalla lingua. Secondo dopo secondo, i numeri procedono inesorabili. Master. Dimmi. Posso castare Time Bubble su... all'interno? Vuoi fermare il tempo? Per la cronaca, non so se è chiaro cos'è, è una segnatempo, cioè un oggetto meccanico con dei numeri che girano ed è grande come un cassettone. Sì, sì. Okay? Benissimo. Ed è dall'altro lato della stanza. La stanza è 8 metri, quindi ci sono 7 metri che vi separano. Time Bubble credo che tu la possa castare praticamente a melee range. Ok. Credo, eh. Sì, perché non è abbastanza grande. No, altrimenti ho un'altra opzione. Voglio castare i cuori di Dio sulla segnatempo. Lieto. Vuoi fare qualcosa al riguardo? Che cazzo stai facendo? Lo ignoro. Vuoi castare? Adone la casta. Lo vedi che sta per sparare un fulmine. Okay. Hai tutto il tempo per fare qualcosa al riguardo se vuoi. Gli scavo una buca sotto i piedi. Can I? Sì. Allora, tu non devi rollare niente, paghi solo il mana. Hai castato Hasten 2 volte, quindi hai speso 4. E Litogenesi, immagino. Litogenesi. E l'altro... Vabbè, sì. Ci avrei... QS in più. Sì. Rolla per evitare Sirio. La difficoltà è 15. Non credo. Hai più 0 a evasione, quindi fallisci. E il tuo fulmine viene sparato in alto, facendo un marchio sul soffitto. E sprofondi di mezzo metro sottoterra. Ok. posso castare Rewind? Sì. Se fai Rewind, sai già che Lieto casterà Lieto Genesi, ma il resto dipende da... Cioè, se non fai niente a riguardo, semplicemente ti viene castata nello stesso modo. Cioè, ripeti il roll, ma... Non posso tornare a prima che io casti... Sì, sì, sì, sì. Puoi ripetere anche la tua azione. Cioè, invece che sparare un fulmine, puoi fare una cosa diversa. Deciderò di parlare questa volta. Fammi recuperare il mana a Lieto. Prego. E... Adone dice... Scusami, l'altra volta ha sparato coso. Ok. Adone dice... Se come l'altra volta, basta rompere... il gioco, giusto? Basta rompere la barriera. No, l'ultima volta abbiamo dovuto risolvere un enigma. No, intendo il tornare indietro. Ah, siamo tornati indietro una sola volta in realtà, no? Puoi continuare quante altre? Almeno fammi vedere cosa sta succedendo. A romperlo così subito non mi sembra corretto. Allora, il sospiro dice: d'accordo, facciamo come dici tu. Intanto Adone vedi che si guarda in giro. Cioè vedi che sta cercando qualcosa, tipo. E cerco di avvicinarmi alla segna tempo. Io di fianco a Lieto. La stessa identica cosa tutte le volte. Cioè fate un paio di passi in avanti e siete all'entrata della stanza. Dall'altro lato. Il segnatempo che vi ha accompagnato, fatto simbolo all'avventura che avanza, appare ora davanti ai vostri occhi. Reale e tangibile come i denti sfiorati dalla lingua. Secondo dopo secondo i numeri procedono inesorabili. Fate un passo nella sua direzione e il numero torna indietro di 3, 5, 7, 11 secondi. E siete all'entrata della stanza. Tutte le volte. Cioè, se lo fate mille volte, succede questa cosa mille volte. Ok. Bianic, se casto Future Glimpse, vedo in loop la cosa. Ok. Mi segno che l'ho castato. Te lo faccio fare come parte del rewind che hai fatto prima. Ok. E se no starà a scastare. Allora, aspetta che intanto mi segno il rewind. Ok. Allora a questo punto dico... Bene. Passo... Possiamo... Vai, se vuoi dire una cosa, dilla. No, dico... Possiamo fare come propongo io adesso. I guess. Ok, e sai allora cosa vorrà fare adesso Adone Bianic? Fare un fulmine. Perfetto. Mif, hai passato una nottata strana e... c'è qualcosa che ti ha svegliato. Non sai dire se è un suono o una brutta sensazione. Fatto sta che sei sveglia molto prima di quanto saresti normalmente. Sei nella tua celletta e all'esterno non filtra nessuna luce. Non c'è traccia di nessun altro, nessun suono che tradisca la presenza di qualcuno. Mi resta tipo... 2 secondi un attimino ad ascoltare se sente rumori, se sente cose. Niente. Percezioni magiche non ne ha. Ok, allora si veste velocemente, prende la sua borsa dietro, esce dal corridoio, fa tipo un passo Poi torna indietro. Fermati. La porta in fondo al corridoio è aperta o chiusa? Adore. E corso giù. Aperta. Sì. No, stavo pensando, era quella la mia scelta. La porta è stranamente aperta. Miff si tiene pronta in canna uno nei romanzi, se subite qualcosa fai solo delle... No. Sì, ce l'ha pronto, appena può stare lo cazza. Però decide di vedere le stanze degli altri, cioè se qualche stanza è aperta, perché si vuole dirigere verso quella di Nigel. Questa è la sua... Adone sappi che ha chiuso la porta. Sì, ma non è quello... Tutte le stanze sono chiuse, tranne quella da cui sei uscita tu, che appunto o l'hai chiusa tu oppure... Allora. E so qual era quella di Nibel? Sì, quella fianco alla tua. Ok, perfetto. Miff batte alla porta forte. E Nibel si sveglia. Hai dormito 3, massimo 4 ore. Sì. Sì, un po' stanco, un po' provato dalla notte... Si siede sul letto e non risponde subito. Non si è neanche cambiato per la notte. Si mette giusto la giacca e risponde dall'altra parte della porta. Chi è? Nibel, sono Myth. Esci fuori, ho una brutta sensazione. Prendo la borsa, ritiro il ritirabile dentro. E me la metto in spalla e esco fuori dalla porta. Cosa c'è di strano? C'è la porta aperta, mi sono svegliata, non so, ho sentito qualcosa. Non lo so, ho proprio una brutta sensazione. Andiamo a controllare? Adone, lieto? Non so dove siano, cioè penso siano dormiti. Non possono nemmeno dormire. Giusto? Vado alla porta di Adone e busso alla porta. Io faccio la stessa cosa a quella di Mir. Non c'è nessuna risposta da nessuno dei due. Sono aperte? No, cioè non sono chiusa a chiave. Cioè, appunto, le possiamo aprire. Mi la apre. La apro. Guarda, ci sono ancora gli oggetti di Adone dentro oppure ti sei portato via tutto? Adone si è portato via tutto. Pure lieto, mi pare di capire. Sì, non sono uscito senza la mia roba. La maggior parte della roba ce l'ho addosso, quindi... Mi chiude la porta, si rivolge verso Nibel e fa: i due stupidi sono giù. Nibel si gira sui propri esatto. Mi corre verso la porta aperta, cioè fa... La segue. I due imbecilli siete. Probabilmente sarà necessaria questa cosa, quindi vi chiedo di rollare la vita. Per Sara 4 di 4 e 2 di 6. Per Boss 4 di 8, 1 di 12, 1 di 6. Due volte ognuno di questi. Sì, fai altri 4 di 4. Fai altri 2 di 6. Ok. 9. Allora, faccio prima Miff, se no mi impazzisco. 9 più 8, 17, 17, 2, 19, 19, 4, 23. Questa è la vita di Miff. Poppa più a pochissima. 23 più 3, perché hai 2 di fisico. Quindi è come se avessi 11 di fatica di fatto. Mi devi rollare anche il mana, che credo sia... Allora, 4 più 3 di mana base... No. Poi devo rollare i dadi da coso. Sì. Da wizard dovresti avere 3 di 4. Ok. Anche questi rolli altri 3, se sono lucky. 4 e 8 okay. E 3 e 11. 11 più 4 più 3, 7, quindi 18. 4, 18, ok, sì, perfetto. La tua scheda è assegnata correttamente. Vado a Nibel. Oddio. dovrebbero essere in ordine? Sì. Quindi hai rollato malissimo. 3, 1, 4, 4, 2, 6, 6 e 7, 13, 13 e 6, 19, 19, 3, 22. Dov'è Nibel? hai 22 di vita base, più 4 più 3, 7, più 10. Hai 32 di vita. Ho una domanda, Master. Visto che abbiamo fatto un riposo, posso fillarmi il libro spendendo un mana penny, ovviamente? Sì. Ok, perfetto. E conta che ha senso, perché hai dormito di merda, cioè hai dormito 4 ore. Quindi non è così impossibile che tu abbia... Sì, sì, ma alla fine non è così tanto più basso del solito, quindi... Sta... Però comunque più basso del solito. Hai 28 di meno. Madonna. Partiamo bene oggi! Arrivate comunque mentre state scendendo, scusami... Ah, ma perché mi hai dato proprio 28 di fatica? Ho fatto prima, sì. Ok, ok, ho capito. Per avere... Cioè, avresti 32 di vita... Ok, cioè non capivo... Cioè, quindi adesso se dovessi usare overpower aumenta la fatica e quindi... No, non scende la vita massima. La vita in extra diventano PV temporanei. Cioè vai a 30 di vita massima e ci avresti 30 punti vita. Ti sta chiedendo se aumenta la fatica. Sì. Sì, perché adesso io c'ho, di massima c'ho 32. Sì. Però puoi andare sotto, nel senso che diventerebbero temporanei quelli in extra, solo che non ci sono problemi a avere PV temporanei qua. Ok. E il non sto capendo, quindi il motivo del fatto che ho 28 fatica è perché abbiamo dormito di merda? Sì. Esatto. Ok, era per capire. E vedi che comunque mentre Mith corre verso, insomma, la porta aperta e tu sei dietro di lei, ha un iromanzi, cioè vedi che ha il luccichio solito di quando la sta per castare. Sì. Quindi è pronta. Arrivate di sotto e quello che vedete... Sono tre figure, tutte e tre di spalle. A sinistra Adone, che con un braccio teso e l'elettricità blu che gli scorre su di esso sta per sparare un fulmine. A destra Lieto, che sta guardando incuriosito la cosa. E dietro di loro una figura nera, impossibilmente alta, che non ha nessun tratto facciale, nessuna considerazione, se non un grande sorriso da parte a parte. Adone, mi rolli danni? Non posso lasciare un eromanzi, o sono troppo distante? Sei troppo distante. Li vedi da lontano. Ok. Domanda. Quanti sono i danni? Esatto, che dado vuoi usare? Hai un di 10, 2 di 6 e 5 di 4. Se uso un di 10 fai 2 di 10 danni. Uso un di 10 e un di 4. Non funziona così. Ok, allora uso un di 10 e basta. Sì, esatto, fai 2 di 10 danni. Sì, tranquillo. Non ho ancora capito come funziona. Tranquillo. Un dado e raddoppi il dado. Esattamente. Ah, okay. In realtà devo rollare per vedere se me ne fai 2 o me ne fai 1. È un oggetto, non rolla. Mi fai 2 di 10 danni. Vedete tutti un fulmine partire dal braccio di Adone, fulminare lo strano oggetto in fondo al corridoio e... L'oggetto si ferma, il tempo si ferma per un istante, l'oggetto si apre e voi immobilizzati, perfettamente fermi, vedete questa cosa. Voi due che siete fuori vedete la creatura nera sciogliersi e diventare un'ombra per terra che si muove verso la cosa che si è appena aperta. Si apre una breccia sul fondo del tempio. Non avete mai visto qualcosa del genere. È un'apertura, proprio fatta una spaccatura come in un terreno che si è rotto perché è troppo asciutto, e da questa emerge un mondo incomprensibile, pieno di frattali senza senso, geometrie non euclide, oggetti in movimento, occhi e tentacoli. È come se stesse partorendo. Da questa cosa esce fuori una figura. Sembra un giovane ragazzo con i capelli neri e lunghi, indossa dei vestiti grigi non descript, senza nessuna feature, sono proprio featureless, la persona più insignificante dell'universo. Si guarda intorno, guarda Adone e annuisce. Vi chiedo uno per uno cosa volete fare. È una, non è una persona che conosciamo, cioè non è una figura che conosciamo. A malapena è una persona. Appena una persona. Non ne idea. Domanda, il mondo che vedo lì sotto è quello che vedevo nei sogni? No, è completamente diverso. La creatura fa per parlare. E se ti ricordi, tu avevi castato Future Glimpse. Vuoi che succeda tutto questo? Oddio! Non sai cosa succederà oltre, questo era il limite del tuo Future Glimpse. Hai anche la percezione dell'uomo alle spalle, l'uomo che ride alle tue spalle, che si scioglie. Tutte queste cose le hai percepite completamente. No, voglio che questo accada. Alle spalle del ragazzo compare l'uomo che ride, che finalmente è percepibile, se non visibile, come un agglomerato di infinite bocche che avvolge il ragazzo come una coperta. La musica, che hai sentito ininterrottamente per tutto questo tempo, si arresta nel momento in cui il fulmine colpisce l'oggetto. Il ragazzo parla all'uomo che ride e dice: non credevo che la corte danzante si sarebbe mai arrestata. E invece dopo miliardi di tentativi ci siamo riusciti. Devi ringraziare lui. Ogni momento della sua vita è stato scandito per raggiungere questo punto. E dimmi, maestro, che cosa facciamo ora? Prima di decidere se sia il momento di mettere la fine a un mondo che mi ha tradito, voglio sapere cosa ne pensa il mio salvatore. Si avvicina a te. È forse anche più basso di Adone. Adone è 1,76. Sì, è più basso. Di poco. Posso sapere il tuo nome? Adone ci pensa, dice... Adone. Credo il mio nome sia... Adone. E dimmi, Adone, che cosa desideri? Adone guarda quest'uomo e dice: desidero morire. Il ragazzo, l'uomo che ride, sta ridendo in maniera non troppo diversa dal solito, e il ragazzo sorride, ti mette una mano sulla spalla e dice: ti capisco, ho deciso, attenderò. Il ragazzo inizia a camminare verso la spaccatura. L'uomo che ride ora ha smesso di ridere per la prima volta da quando avete cognizione di questo essere e dice: maestro, come? Dopo tutto quello che abbiamo fatto, lo lasciamo così? La nostra vendetta, il nostro piano, il nostro mondo, il nostro destino. Trovo più interessante vedere come andrà questa storia. Il tempo non significa nulla per noi. Aspettare che concluda il suo ciclo o farlo ora non cambierebbe nulla. Ma a questo punto non possono più sigillarmi. Il ragazzo si sdraia per terra e dice: vai, Adone, Vai e muori. Si guarda un attimo intorno e... Adesso? Voglio vedere cosa farei della tua vita ora che... Hai condannato il mondo alla fine. No. Adone, ci penso un attimo. No, io non credo di esistere, non credo questo, niente di tutto ciò sia reale, si guarda attorno. Io credo che tutto questo, indica l'uomo che ride a coperta, sia qualcosa fatto da questa cosa per divertirsi. Non... Cosa dovrei fare? Non voglio fare nulla, voglio solo porre fine alla mia esistenza. E basta. Non hai tutti i torti. Il mio servitore si è prodigato molto per cercare di far impazzire il mondo, pensando che questo sarebbe stato l'unico modo per risvegliarmi. Quanto pare ne abbiamo trovato un altro. Io sono stato l'altro modo per risvegliarti? Esatto. Come ti chiami? I nomi non hanno un'importanza. Sono solo dei sistemi che utilizzate voi per comprendere le cose finite. Da dove veniamo noi due? Le cose sono infinite e in quanto tali un nome serve solamente a tagliarne una fetta per comprenderla. Bene, stiamo d'accordo su questo. Io non so cosa sono, non so se tutto questo è reale, quindi... Vorrei avere una prova di qualcosa, qualsiasi cosa, un modo per dimostrarmi che esisto. Chi è Adone a questo punto? Chi sono? Cosa non sono io? Hai paura che le voci nella tua testa ti facciano impazzire? No, le voci nella mia testa mi hanno già fatto impazzire. Non si tratta di sé. Ti libererò. Punta due dita verso di te e un tentacolo bianco, contrapposto a quelli neri dell'uomo che ride, ti trafigge il cervello. Ok. Hai questa percezione per cui tutte le tue personalità, tutte le tue anime vengono trafitte da questa rete di tentacoli e distrutte. No. L'uomo che ride ritira il tentacolo. Sì, l'altra creatura ritira il tentacolo e dice: risolto il problema. Ora ci sei solo tu. Adone rimane un attimo fermo e poi... Ma... C'era un altro Adone? E ora non esiste più. No, non era questo quello che volevo, ancora peggio! E si mette a sedere con le mani nei capelli. No, non doveva andare così. No. Cioè... Poi si gira e si va... Guarda questo creatura... Quest'uomo, comunque. E dice... Che... Perché me? Perché io? Cosa ho fatto? Cosa mi rende diverso? La coperta. E la coperta ride. Eri nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ma non ti preoccupare. Non sei così speciale. È solo che tua madre era l'ultima di una serie di persone che ho manipolato per arrivare a questo punto. Io cosa sono? Ora sei... qualcosa di divertente per il mio padrone. Un giocattolo, forse. Di quindi non importa. Non mi viene in mente un proverbio adesso, ma semplicemente ho cambiato padrone, giusto? Non importa io cosa io faccia. E il ragazzo ti risponde: ora sei libero. Nessuno ti controlla, nessuno ti sta sopra. Sei solo te stesso. La storia di dover ascendere, diventare un dio, quelle cose lì. Il fatto... Io so che non sono... Cos'è un santo? Cosa sono? Cosa non sono? Ormai. Non sono umano. Si mette a parlare con un uomo, credo. In questo mondo, come è messa la medicina, credo che comprenderanno. E i santi sono i globuli bianchi del mondo. Quando c'è una malattia, la mangiano. Quindi... Allora ci pensa un attimo e dice... Fermi. Potremmo dire che il mondo mi ha creato per distruggere le malattie, quindi in questo momento, per esempio, le centrali? Esatto. Ah. Interessante. Perché Arta ti voleva incatenato, sigillato, qualsiasi cosa io abbia fatto per liberarti? Di chi sta parlando? L'uomo che ride dice: lo hai creato con il nome di Fong Lux in un altro universo. Egli era forse l'imperatore. Ah. Ti capita mai che le tue creazioni prendano vita? I tuoi conigli che diventino autonomi? No. A me sì. Quindi io adesso cosa dovrei fare? Quello che vuoi. Madone, penso un attimo a tutte le domande che aveva, a tutte le domande che non aveva. Dentro di sé sente le anime? Non c'è più niente dentro di te. Il silenzio che hai bramato tanto da bambino, perché è contrapposto alla musica, ora è insopportabile. Oddio. Adone si mette la mano sui capelli, nei capelli, se li stringe. Dice: e tutto questo è molto bello, è molto interessante, ma il lieto si gioca la memoria. Roll the tape. Tutto questo? La prima di tre. La prima di tre. Ah, sì, la mia. Fai la mossa del dominio, non lo so. Com'era? Lo vedete come un film. Un film che è andato troppo avanti. Avanti in un momento in cui non si poteva tornare indietro. In cui quella creatura, chiamatelo Azathoth, chiamatelo Nyarlathotep, chiamatelo come volete, avrebbe portato alla fine del mondo così come lo conosciamo, alla fine di tutti i mondi. Ma questo è un film con un regista particolare. Un regista che è appena stato menzionato. Fong Lux, emperor di un altro mondo, che sta guardando il tutto, lo riavvolge. Lo riavvolge fino al momento in cui Lieto stava per aprire la porta. E prima che il tempo riparta, c'è una pausa, il tempo è immobilizzato, tutto è grigio, e Arva compare davanti a Lieto e gli dice: lo sai che non lo posso fare infinite volte questo? Mi sembrava abbastanza chiaro che fosse una tantum questa cosa. E... hai un attimo per parlare? Certamente. vorrei mostrarti le parti della tua vita che non hai mai visto e mostrarti le parti della mia vita che nessun altro ha mai visto. Volentieri. E ringraziarti, perché niente di quello che succederà da qui in poi mi renderà più felice che aver fatto un dito medio all'uomo che ride a quell'altro. Mi hanno condannato a un'eternità di sofferenze interminabili, un'eternità in cui vengo ucciso e reincarnato costantemente, un'eternità in cui vedo tutte le persone che amo morire e il giorno dopo rinascere. Non spezzerò certo così questa condanna, ma sapere di aver potuto dare fastidio è sufficiente. Vieni, ti porge la mano e uscite dal tempio. Rivedi le parti della vita di Lieto che non ti erano chiare. Rivedi che quando da bambino la tua balia pregava, quello era un diavolo. Quello era un diavolo che offriva i suoi servigi agli altri. Ed era il diavolo Yadamak. E in cambio della venerazione proteggeva le persone della sua vita, e in un certo senso ha protetto anche te. Ti è stato vicino, ti ha controllato, si è assicurato che non morissi in modo stupido. Ti ha mandato qualcuno per proteggerti un paio di volte. In seguito ci sono alcuni eventi paranormali, tutta la tua vita passata nell'antiquario di Promezia, con tutti i suoi strani artefatti, e ti colpisce in particolare il libro azzurro. E il libro azzurro è esattamente quello di cui stava parlando, ovvero un dito medio da parte dell'uomo che ride ad Arva. Un modo per obbligarlo a incatenarlo nel mondo e continuare questo ciclo infinito di sofferenza e controllo. E perché ogni volta che qualcuno legge dal libro azzurro, Arva è costretto a essere ritirato fuori e a castare delle magie contro la sua volontà. Questo vuol dire che se tua madre sta continuando a usare quel libro, tua madre sta continuando a torturare Arva. Fai quello che vuoi di questa informazione. L'avevo intuito. L'intuizione è che se ci sono altri libri funzionano in maniera analoga o hanno altri trucchi dietro. E il libro è proprio creato dall'uomo che ride, cioè una sua genesi. Appunto, ti fa una serie di highlights dei momenti della tua vita che non avevano nessun senso. L'arancio, cos'era l'arancio? È un arancio che viene da un'altra dimensione, niente di che. Quando arriva nella nostra dimensione ignora le regole della fisica e fa delle robe strane. E ti spiega una cosa, perché se l'è mangiato Promezia. Promezia è riuscita a controllare il potere dell'altra dimensione. Ok. Promezia aveva già fatto degli esperimenti con gli oggetti anomali ed è in grado di manipolare forze che non vengono da questo mondo. È più una roba che alleni, cioè man mano che vieni esposto alle cose anomale crei una specie di resistenza. Abbiamo quasi finito. L'ultima cosa strana con cui hai avuto a che fare sono le creature meccaniche. E io questo lo vorrei dire solo a te e poi farti decidere se dirlo agli altri, quindi vi chiedo o di fulmutarvi. Andiamo su nella carrozza. Perfetto. No dai, ci fulmutiamo! Mi spiace. Le creature meccaniche sono create da Xadak utilizzando un metallo super pesante, super ultra pesante, cioè a numero atomico a 4 cifre. E per qualche motivo, che Arva non ti sa spiegare, questo metallo si autorigenera. Cioè, quando entra in contatto con altri atomi, trasforma quegli atomi in copie di se stesso. Ok, Xadak però è? Perché non... Il diavolo della tecnologia. Braxaras o Xadak. Ok. E quindi tutte le creature che hai visto in realtà sono metallo, un metallo particolare che si replica e crea quelle forme lì, cioè crea delle forme di androidi, di robot, e loro non hanno uno scopo, è una cosa non viva, è un oggetto che per sua natura tende a replicarsi all'infinito, come un, come si chiamano, un prione. Ok, sì. Perfetto. E questa era l'unica cosa veramente strana, spoiler. L'anima rimane bound non perché ci sia qualcosa di magico, ma semplicemente perché la persona che subisce questa cosa non muore mai. Il suo corpo viene mutato da questa roba strana e non subisce mai il processo per cui muori. Ok. E non ti spiega cosa sia l'anima, Arva, ma ti dice che nel suo mondo era un'altra cosa e che da voi effettivamente è una specie di buco dal quale l'uomo che ride è l'altra cosa e i loro simili si nutrono di voi. È possibile tapparla? Sa qualcosa riguardo? A costo di cancellare completamente la magia dal mondo? Sì, no. Come? Le anime sono state formate nel Rift da Shai 5.000 anni fa. Il Rift è un luogo fisico della Nadiria. In quel posto si può chiudere il Rift. Cioè è letteralmente un buco nel terreno. Che però è in corrispondenza di un buco nell'universo, analogo a quello che hai visto dietro la macchina strana. Ok. Quindi l'unico modo per fermare tutto questo processo è sigillare quella cosa lì. Come fare? E immagino che i nadiri non siano contenti di questa cosa. I nadiri non sono contenti di questa cosa, no. Però ovviamente dovresti andare a chiedere a loro cosa ne pensano prima di... Perciò Arva non lo sa. Non hanno mai dialogato con Arva, i nadiri. E Arva è effettivamente un... Cioè, tutte le divinità quindi sono persone di altri universi? No. Arva è Emperor di Demenzia. Sì, è proprio Emperor di Demenzia. Alla fine di Demenzia il mondo viene distrutto perché i 22 pazzi scelgono di salvare loro stessi e non il mondo. Quindi il mondo viene distrutto. E vengono sparsi nelle varie dimensioni. In Terra Nadir, che è quella di Fateless, ne arrivano tre. Arriva Lovers, arriva Sean Blood e arriva Arva. Non in quest'ordine. Arva arriva all'inizio dei tempi e viene ingabbiato nel ciclo infinito di reincarnazioni, eccetera, eccetera. E poiché arriva in un momento in cui non esiste ancora il mondo, per sopravvivere gli viene assegnato il ruolo di divinità del tempo. E quindi da allora lui è il dio del tempo. E nel corso dei secoli gli viene dato un nome diverso, quasi sempre a quattro lettere. Arva. E l'uomo che ride, Arva, mi conferma essere una creatura lì da prima dell'esistenza degli universi. Di preciso Arva non sa cosa sia. È quello che a una certa gli ha chiesto, tu chi saresti? E Arva ha detto... un dio di cosa, e ha detto la prima cosa che gli è venuta in mente, il tempo, ed è diventato così il dio del tempo. Ok. Sì, forse era più carina ruolata sta cosa, ma ormai te l'ho detta male. È andata così. E questa è tutta la trama di Arva e di Lieto per quanto concerne la campagna. Se hai altre domande, falle, e che poi scendiamo di sotto. Ne rimane una, ma è perché si nutrono delle anime di questo mondo? Non ne ha idea, ma il fatto che l'uomo che ride era lì quando è stato creato il mondo ti dà a intendere che il mondo sia stato creato per quello. Ok. Va bene, siamo tornati di sotto. Dopo chiedo il permesso di Pianis, ma... Il tempo si è riavvolto. Lieto, puoi non aprire la porta. Siamo lì? Da te. Lì. E tocca a Lieto, nel senso che tu sei streamlined. Lieto poggia la mano sulla porta. Lo vedete che è fermo per un istante con la mano sulla porta, completamente immobile. Poi rimuove la mano dalla porta. No, ma non penso che lo farò. Si gira. E si allontana dalla porta. Qua però siamo solo ancora io e te, non sì, ci stanno sono scendendo gli altri due. Okay. Quello che sentite è un fruscio provenire dal corridoio, molti libri cadere e una figura nera fatta di tentacoli e di bocche sorridenti che vi viene addosso e vi urla: no, eravamo così vicini. No, non penso che andremo avanti con questa storia. E Adone, se vuoi alcune delle risposte, se lo ricorderà il suo personaggio quello che è successo, o lo so solo io? Lo sai solo tu, a meno che tu non glielo racconti. Ok. Se vuoi delle risposte, le risposte le possiedo. Basta non aprire quella porta. La creatura sembra avvicinarsi come per attaccarvi. Voglio... Io sorrido e vorrei castare... Vorrei castare Absolute Rule su Lieto e obbligarlo ad aprire la porta. È il momento di dirti cosa ti regala la tua memoria. Come sapete, le memorie vi danno sempre qualcosa in più. Ah, da dove è andato i fulmini? È vero. E tu va ancora... E ti sto per mandare uno screenshot. Vai. Io ho paura. Scegli una delle due. Hai 5 minuti per farlo. Ma voi avete visto che si è laggato di quanto ha riso, c'è un problema. Terribile. Wow. Perché ho letto il nome di uno dei due ed era tipo... Vabbè, però dammi un attimo. Vabbè, ragazzi, è stato un piacere giocare con voi. No, cioè, io... Allora, questa cosa del meme delle tre memorie è un meme e basta, ok? Cioè, io ero tipo lì... No, non farmi giocare voi non ci siete nemmeno, quindi... Noi siamo arrivati. State per arrivare. Sì. Esatto. Ah, ok, a posto. E vabbè, c'è una... Comunque, c'è una sola scelta possibile. Ti chiedo anche se la vuoi castare immediatamente. Esatto, sì. Hai già capito cosa voglio castare. Dillo ad alta voce. Quindi sì. Zawarudo! Ah, il mondo? Letteralmente. Lieto resiste per resistere a Absolute Rule. Adone tira per resistere a The Emperor and the World. Dovete rollare un D10. Sì, sta arrivando. Non ho modo di cazzare Future Glimpse. Vabbè, su questa cosa non funziona. Rollare un altro. Ah. 12. Hai 5 più... Potete usare entrambi i rewind. Yes. Posso usare il rewind per cazzare solo il secondo dado? No. Cioè, se adesso Lieto ti fa ritirare. Ah, mi obbliga. Minchia, che sfiga, Lieto. No, vabbè. Vuoi fare rewind? No, posso usare un intervento? Puoi usare l'intervento per rollare, se... Dai. Non ti si recupera se fate altri rewind. Quanto hai di giallo? 3. 11. Sotto di 1, credo. Fammi double checkare perché non mi ricordo i numeri. Sì, sotto di 1. Cioè, tondo. Quindi fallisce. Quello che succede, e che vedete voi due da fuori, è che i due stanno litigando, castandosi delle spell molto strane tra di loro, e Lieto viene obbligato ad andare a aprire la porta, ma nel frattempo Lieto paralizza il tempo in un'area enorme intorno a sé. Cioè, tipo, tutto il tempio è congelato nel tempo. E quindi, Mif e Nibel. So che è una situazione assurda, ma scendete dalle scale, correndo, arrivate all'entrata del tempio, e vedete Lieto e Adone castarsi reciprocamente delle spell e poi rimanere paralizzati. Avete pochi secondi per reagire, in realtà, non avete delle ore. Ok, prego. Il casting è romanzi. Casting non è romanzi? Sì, se ti arrivo, se no ti avvicino un pochino. Sì, ti avvicini fino al punto in cui riesci a castarlo. Ed entrambi mi rollate per resistere pure ad Aeon Romance. Vabbè. E il save è... Beh, il mio Vai, Lieto. Vai a dove, troia. Il 3 è il tuo tiro, Lieto? Sì. Ok, allora... No, sei sotto anche te. 15, sì. Tipo, la difficoltà di... No, no, è 20. Vabbè. È uguale. Miff addormenta tutti. Essendoti addormentato, sparisce anche l'effetto di Emperor and the World. Quindi sei solo tu sveglia al momento. E davanti a te ci sono loro tre addormentati. Cioè, Nibel alla tua destra. Nibel, poverino, che è arrivato. Finiscono di dormire. E loro due, che erano paralizzati nel tempo, si addormentano e dopo un istante, cioè rimangono addormentati in piedi e poi cadono. E oltre a loro c'è una figura nera, fatta di bocche, sorridenti, che ti guarda senza occhi. Quindi in realtà sta puntando verso di te, forse è più corretto. C'è Biff che tipo fa un passetto avanti per capire cosa vuole fare questa cosa. La cosa si muove molto velocemente verso di te, ti fa tipo jumpscare all'improvviso. E i suoi tentacoli si espandono in tutte le direzioni, quindi hai le sue bocche ovunque intorno a te. E parlano tutte all'unisono, dicendoti: tu hai ancora la possibilità di fare ciò che è giusto, quello che era il tuo destino. No. Tu sai cosa succederà a Mimi se non lo farai? No, Biff tipo si mette le mani sulle orecchie e fa no, no. Tappandoti le orecchie non smetterai di sentirmi. Vabbè. Sarai tu a rinchiuderla in una prigione per sempre. Le tue mani saranno sporche del suo sangue. No, non ucciderò nessuno, no. Tu sì, in real life, sono anche io che sto tossendo perché mi sto soffocando, però anche Biff fa... La creatura si ricompone, ritornando ad essere l'uomo che ride. Distinto ed elegante. Lo e dice: vabbè, ci ho provato, sarà per la prossima volta, buona vita Mif. E se ne va, lasciando a terra dietro di te un libro, libro bianco. Mif lo prende su, ha un, un cerchio dorato, un anello dorato sulla copertina e nient'altro. Ok, misselo in tasca per ora. Cammina verso... Scusa se ti interrompo. Certo, sicuramente l'uomo che ride, che ha appena causato la fine del mondo ed è stato impedita questa cosa dal riavvolgere il tempo, non ti inculerà per causare nuovamente la fine del mondo. Esatto, esatto, cioè, sicuramente. Ma questo Mif non lo sa. Andiamo avanti. Andiamo avanti, Mif cammina, fa... arriva fino a voi due. La porta? La porta esterna è aperta, la porta interna è chiusa. Ok, perfetto. Guarda Lieto, guarda Adone. Entra nelle loro cazzo di menti. Puoi fare quello che vuoi. Perfetto, gli faccio... congiunti, quindi c'è sia Lieto che Adone che Nibel, perché Mif non esclude nessuno. Nibel è tipo i popcorn, è tipo la mamma incazzata, no? E ti togli i popcorn, qualsiasi cosa, non te la lascia, non te la lascia. Ebbene? Ricordo che siamo ospiti qua e questo non lo dobbiamo aprire. E quel mostro, ok, ha tentato di convincermi a fare qualcosa che non so quali siano le conseguenze di fare qualcosa. Quella cosa che mi ha chiesto. Lieto ti interrompe. La fine del mondo. Ok, perfetto, non la farò. Gira verso dove fa. Cazzo, state facendo? Non è possibile che cerco di dormire con come una persona normale quale sono e voi due vi svegliate e venite qua giù e infrangete le regole e cercate di aprire il nucleo di questo cazzo di tempio che ci ha fatto capire che non lo vogliamo aprire. Adone in questo momento sta pensando perché l'uomo che ride gli sta facendo vedere tutte queste cose, gli sta facendo fare tutte queste cose in questo momento. Non crede a quello che sta succedendo. fatemi capire, se dietro quella porta c'è la fine del mondo, vuol dire che qualcuno, cioè, perché stavate combattendo? Qualcuno di voi voleva aprirla? Io ho aperto la porta e qualcuno ha scelto di, indico Adone, far saltare in aria l'unica cosa che teneva l'uomo che ride, il suo aiutante, di cui non mi ricordo il nome in questo momento. Non l'ha detto. Non l'ha detto, e infatti, ok. L'aiutante è l'uomo che ride comunque, non il contrario. Sì, il, scusami, il capo. Maestro. Il capo. Sì, ma non mi torna, non mi sembra che stia finendo il mondo in questo momento, non più del normale almeno. Dio del tempo. Cioè... Quindi siete sei in un sogno. Scusa, ti interrompo per dire che siete in un sogno. Se Mif te lo concede, tu puoi mostrare i tuoi ricordi agli altri. Sì, sì, se vuole. Vabbè. È un bel film. Oh, immagino tu tagli le parti che ci siamo detti in privato di sopra. Sì. Però il resto è uncut. Mif vede tutto questo. Mif va da lieto, ti dà un ceffone fortissimo e sono tipo dei danni di oneromanzi, va da Adone, fa la stessa cosa e sono dei danni di oneromanzi. I don't care. Okay. Rullate, rolla 2 di 4 per uno e 2 di 4 per l'altro. Credo che nessuno abbia delle erano resistenze. Erano di 6? Ah sì, addirittura. Aspetta, guardo. Erano 2 di 6? 4 di 6? È 2 e 2. Ah no, ok, ok. Cosa? Sacro o oscurità? C'ho più uno a oscurità. Ok. Ci sta. Cioè, danni sacri e danni dall'oscurità, quindi sono sì, 4 sì, di 6. Perfetto, rollo 4 di 6. Sì, sì, lieto a meno 1. Che tra l'altro dovei segnarlo, tra l'altro. Sì, probabilmente. Ah, c'ho meno 1 di base e c'è già segnato il più 1. E 10 a lieto, 17 ad Adone per il semplice fatto che prima ha dato un ceffone a lieto e dopo a... non perché i danni col fatto che sono diversi ho deciso di assegnarli così. Oh. E quindi lieto ne prende 9 e Adone ne prende 17. Posso dire, un pochino te li sei meritati. Io Sirio dico di distruggere l'universo, non so se cosa potevi fare di più grave di così. Non lo so. Sono d'accordo, però mi dispiace comunque. Tra l'altro, nel sogno vedi anche la parte di lieto che torna indietro e dà la possibilità ad Adone di non fare quello che ha fatto parlando. Lo fa. Cioè, esatto, per questo gli ha dato il ceffone. Allora, 14, 10, 6 di mana. Sì, 6 di mana. Ottimo. Adone c'ha proprio così le mani sulla faccia e dice: Dovreste vergognarvi entrambi. E poi si gira verso dietro e fa: grazie per quello che hai fatto, però comunque non è una cosa giusta. Cioè, quello che è venuto dopo è molto giusto, ma quello che volevi fare prima, no. Quindi, veramente, io posso risolvere l'enigma del... Abbiamo capito che non è da fare. Okay. Poi allora Adone si alza lo sguardo verso lieto e dice: Tu sei un dio quindi adesso? No. E le divinità molto probabilmente vengono elargite dall'uomo che ride. O dai suoi amici, stando a quanto... O dai suoi amici, o dal suo amico. Ah. E però, se voi foste disposti a fare un piccolo viaggio con me, potremmo sistemare questa situazione once and for all. E lieto, cioè io sto ridendo, ma lieto è serio. Mi fermo un attimo lieto e fa... Mi date la garanzia che se vi sveglio non correte sulla porta? Io sì, ma io no. Non lo so. Guarda Mif e dice: a me non importa più niente di nessuno. Solo perché a te non importa più niente non ci devo rimettere io e non ci deve rimettere il mondo. Hai un modo per uccidermi? Io mi avvicino a Dodone, tipo lo prendo con la pullottola e lo tiro su. Dico, ma questo è un sogno! Non importa, non gliene frega un cazzo di questo momento. This is wise. E ti dice, con che coraggio mi hai detto di non morire? No, scusami. Cambia la musica, ho capito. No, di merda. Adone, questa volta ti guarda con rabbia e dice, non so nemmeno se tu sei vero, io in tutto questo sono ancora convinto che niente di tutto questo sia reale. Hai avuto la visione di tu che ti venivano rimosse effettivamente le anime? E di tu che comunque non potevi sopportarlo. Dopo che ti veniva detto che questa era la realtà. Dal tipo che usciva da un'altra dimensione, vabbè, ma lasciamo stare. Un problema certo. Alla volta. Un problema alla volta. Adone si fa comunque per staccarsi da... Chi ti impedisce questa cosa? Cioè, no. Arrivo lì appeso, porco. Molto debole. Se voi volete salvare il mondo, a me va bene, fate quello che volete, io voglio smettere di esistere, qualsiasi questa cosa significhi. Non ne posso più di voci, di non voci, anime, non anime, divinità, non divinità. Tutto quello che mi hai mostrato, Lieto, non mi aiuta a calmarmi. Conferma quello che penso, che io non sono Adone. Non volevo calmarti, volevo dirti che sti alzi, rifai la cosa che hai cercato di fare, succede nuovamente quell'outcome. Quindi scegliene un altro. Non importa quale sia... Porco Dio. Non importa quindi cosa io faccio. Il risultato sarà lo stesso. Impazzisco in qualche modo. Almeno se provo a fare quello che... voglio fare, magari mi uccidete e finisco di esistere. C'è una possibilità. No, lasciala. Mi sembrava adatta. C'è una possibilità, anche se remota, e quello che ho intenzione di fare possa guarire in qualche maniera. Guarire cosa? I mali del mondo? Parzialmente. In che modo, dite? Questo preferirei dirvelo a tempo debito. No, io voglio sapere cosa vuoi fare adesso che siamo qua e non posso fare nulla. Non avete molti minuti rimasti prima che io ceda a questa cosa. Ho il timore che rivelandovelo possa aiutare l'uomo che ride. Ok. Anche se sono risposte da sì o no? Penso che qualunque conoscenza di questa cosa non è un contratto, non è una niente a che vedere con i contratti. Contratti non funzionano nei sogni, quindi... Vero, tra l'altro. Comunque no, non è il solito concetto di cose, è solo perché in un modo o nell'altro quasi tutti abbiamo fatto un patto, o comunque abbiamo parlato con l'uomo che ride, e poi c'è Adone che ha 45 miliardi di cose in testa che appartengono all'uomo che ride. E è chiaramente il suo metodo per attuare la sua volontà su questo mondo. Quindi se non glielo dico, magari è meglio. Ok. Se non facciamo esplodere il mondo e guardadone prima del previsto, io esco da quest'isola di merda e divento quello che dovrei diventare, magari Vieto, almeno squillo. Dai piani alti ci si può aiutare. vi dico una roba: voi tre rimanete nel sogno e potete continuare a interagire tra di voi dentro al sogno. No, e Mif ha un secondo da spendere fuori. Ciao, oh, Sara. No, che paura! Come mai? Dimmi. Sei consapevole che tu, quando hai un aeromancy attivo, hai la percezione anche dell'esterno? Sì, certo. Ok, non solo dell'interno. Bene. All'esterno stanno succedendo un paio di cose. Vorrei dartele in ordine. La prima è che Adone non sembra dormire. Cioè, sembra avere un attacco di panico, sembra essere sveglissimo. Cosa e... sta succedendo al... In realtà è impazzito. Infatti. Questo canale cioè, non gli è piaciuto per niente. Infatti. Quindi proprio... sai, non hai diritti per parlare qua. Dicevo, due cose. La prima è questa di Adone, che sembra avere un attacco di panico, alle convulsioni, sta urlando, ok? E dice delle frasi sconnesse, ma riesce a percepire qualcosa del tipo: questo non sono io, liberami da questa cosa, finalmente te ne eri andato perché sei tornato, cose del genere. Sono molto confuse. Ma l'altra cosa che ti colpisce è che qualcuno ti sta picchiettando la spalla. Biff fa tipo un... ok, c'è un... pugno alla mano, non lo so, qualcosa. Dietro di te c'è una donna, più alta di te perché mi falta un metro un cazzo. E... normalmente quella cosa che ti sto per dire ti farebbe cagare addosso, ma alla luce degli ultimi avvenimenti è meno traumatico, spero. Ok. È una donna, ha un seno, quindi è una donna, vestita di nero. Abiti leggermente militari, possiamo definirli come abiti militari, più comodi, però sono comunque abiti militari. E indossa una maschera bianca da volpe con delle corna. Ripeto, la reazione di Mif è girarsi, tipo tirare un ceffone o un qualcosa. Cioè... prende la mano. Ferma. Non era mia intenzione. Non potevate aspettare domattina, nel cuore della notte dovete fare queste cazzate. Hanno deciso loro di farlo, li ho fermati. Li ho fermati, ma a quanto pare quello che sta urlando non vuole convincersi. È chiaro. È stato strano, in genere... Come? Sai come sigillarlo. Vero? Farlo ora potrebbe essere problematico. Non abbiamo molto tempo prima che si sveglino. Ho visto di cosa sei capace, ma è comunque roba da ragazzino. Dicevo, normalmente le nostre previsioni sono più precise. Questa volta è successo qualcosa che ha accelerato questa cosa, altrimenti sarei arrivata qua prima. Credevo l'avreste fatto al mattino, all'alba, e invece l'avete fatto la notte, come ho detto voi. Piacere, io sono... il Magister Isti. Se mai dovessimo diventare amiche, sono Sondra Friserum. Credo, Come si scrive il cognome? Friserum. Ok. Ha un accento imperiale, simile a quello di Adone, se ti interessa. Okay. Mi stand out. Piacere. Scusa, sì, ancora so per pugno. Sì, lo so. Mi hai iscritto. Hai già sentito Shibira, immagino sarà il nostro contatto. Ho motivo di credere che abbiate impedito la fine del mondo, è corretto? Sì. L'uomo che ride è svanito da questo luogo. Dove è andato? Sì. È uscito dalla porta. Ha lasciato qualcosa? Quindi Mif che fa, cioè fa tipo... Sì. Tira fuori il libro. Sgrana gli occhi. Di nuovo? Ne ho già distrutti 4, com'è possibile? Ce ne sono tanti in giro. Sì, è sempre il solito. Deve essere in grado di rigenerarli, nonostante l'ultima volta abbia provato... Ah, lascia stare. Me ne vado tra poco, così non avrai problemi con i tuoi amici. Grazie. L'impero vorrebbe che tu collaborassi con noi. Sì, l'avevo capito da memo che ho ricevuto. Perfetto. È importante. Mi è un problema farlo quando sono con loro. Io potrò fare del mio meglio, però. Potresti anche convincere a far parte del nostro illuminato impero invece che essere degli anarchici psicopatici che vogliono distruggere il mondo. Non li dobbiamo per forza infilare dentro una centrale, ok? La ragazza che avete ucciso ad Apeira, lei non è dentro una centrale. Non farti Maria, male. Intendi? Esatto. Ok. Non credo usi più quel nome, vabbè. A Desboson, in città, ci sono almeno due entità che devono essere sigillate. Okay. O uccise, se proprio non riesci a sigillare. Le riconoscerai. Okay. Li riconoscerai, non so se sono. Non so cosa sono. Fatto sta che ho bisogno che ci pensi tu, perché io ho delle altre cose di cui occuparmi. Mi fido. Come faccio a sigillarle? Assicurati di sconfiggerli in qualunque modo. Addormentarli è un ottimo modo. E dovrai tracciare un sigillo. Ce l'hai qua? Sì. Ti dà una pergamena. La prende. Hai solo due usi di quella cosa. Laggo. Ok, ci sono io. Puoi usarla solo due volte. Ok. Se le cose si mettono male, dovrai usarla su... E indica i due per terra. Sì, probabilmente la dovrò usare su. È importante che siano fuori combattimento, come adesso. Questa cosa li mette in quella posizione strana come dentro le centrali. E gli impedisce di usare il loro collegamento con il... E poi? Sono sigillati? E poi chiami Shibira e le dici di andare a pulire il casino che hai fatto. Come faccio a chiamare Shibira? Mi contatta lei? Shibira? Sì, sì. Avvicinati. Visto si avvicina. Hai i buchi alle orecchie? Tutto lo chiedo. Sì, hai cosi. Gli orecchini. Sì. Ok, ti svita un orecchino. Ok. E ti mette un orecchino diverso. Ok. Devono farci proprio tanto caso per notare che è diverso. Ok, perfetto. Okay. Quindi è simile a quell'altro che aveva. È il più simile che ho. Prende l'altro orecchino e se lo mette in tasca, quello che ti ha appena preso. Vale quello, Mi fa tipo... Come l'ho detto? Bene. Me ne vado. Grazie. Scende, poi si gira e dice... Avete fregato l'uomo che ride? Indietro nel tempo. Indietro è bravo. Sì, sarebbe un peccato infilarlo dentro la centrale. E se ne va. Salve. Possiamo dire una cosa? Certo. Eccoci. Senso che Adone voglia suicidarsi, ha visto per la terza volta l'uomo che ride. Hai visto? In realtà credo tu l'abbia visto per la seconda. Tutte perché le altre volte non era veramente l'uomo che ride. Il bot che sta impazzendo, perché? Perché se lo sposto io non è felice. Allora. Ogni volta. Riprendiamo dalla magia di Mif che perde effetto. E quindi voi tre che vi risvegliate praticamente insieme. Ho proprio fulminato il bot. Beh. Strano. Nibel si alza e si pone davanti alla porta. Pone davanti alla porta quella importante o quella d'entrata? No, quella importante. Perfetto, a posto. Okay. Adone solamente a sedere con tipo le braccia appoggiate così sulle ginocchia, dice. Non faccio nulla. Rimane lì fermo seduto finché nessuno gli dice qualcosa. sto continuando a sentire notifiche di Discord e non mi stanno arrivando, scusatevi. È il bot che è impazzito. Le voci? È il bot che è impazzito, ora dovrebbe essere ripartito normalmente. No, perché ne sento ancora, è terribile, mi sento a dolore in questo momento. Le voci. E muta il canale del bot, muta Edo sotto, appagato. Tra l'altro, scusami. Oh, no, continua ancora, non capisco. Ma dallo stesso canale? Che se arrivo da un'altra parte non so cosa non aiutarti. Io non lo vedo neanche, quindi in realtà non mi arriva. O forse sì, infatti... no, dove? Cioè non sono probabilmente del... No, io ho mutato tutte le volte che vedo che c'è un canale da cui arriva il bot, l'ho mutato anch'io. Eh sì, perché sta mandando un botto di notifiche di continuo, non so come fermarlo. Che notifiche sta mandando? Sta mandando una notifica di sto suonando la canzone X. Ah, la ripete costantemente. Ah, è quel bug vecchio che è già successo, e a tuoi codici che è successo. Anche adesso che è fermato non lo fa più? Sto provando. No, lo continuerà a fare per un bel po', e mi sa che dobbiamo uscire tutti da Discord. Tipo. Ah. Ok. No, da Discord l'applicazione, no? Non da Discord il canale. E da Discord l'applicazione non capisco come possa cambiare sta cosa. Cioè, dovremmo disconnettere tutti dal server? Sì. Beh, magari basta uscire dalla chiamata direttamente. Vai, proviamo. Sono. Io lo vedo che continua a mandare. Ha smesso? Sta continuando a mandarmi. Perché l'avevamo scoperto con distratto, come l'ho mutato, ho fermato le notifiche direttamente, adesso c'è silenzio, mi sento bene, adesso possiamo. C'era il solito bug che se andavi indietro in general inizia a fare questa cosa, tipo non so se è perché Ika è rientrato subito in The Slums, però quando sono uscito, c'era The Slums che era ancora verde, come se ci fosse qualcuno dentro. È vero? Non nessuno. Sì, no, perché c'è l'evento. Perché c'è l'evento. Ah, è per l'evento. Sì, okay. Sì, per l'evento rimane. Okay. Io comunque ho disattivato le notifiche. Sì, è la cosa più facile per ora. Cioè, ci pensiamo dopo la sessione. Però sì, mi è comunque esploso Discord, cioè, quindi proprio... ha fatto... Vai. Eravamo rimasti al fatto che vi risvegliate tutti. Yes. Nivel si è messo davanti al portone pericoloso. Lieto sta avendo un breakdown. Svegliandoti, Adone sta avendo un breakdown. E noti che svegliandoti hai la gola secca e gli occhi lucidi. Io? Sì. Mentre nel sogno non avevi questa percezione. Miff dalla borsa ti lancia il sacchetto dei sonniferi. Magari magari sui piedi, cose del genere. Quello vero o quello sostituito? No, quelli che ha comprato lei, quindi sono veri. Banish the word è ontica o è una teologia? Perché c'ho scritto entrambe. È entrambe. Ah. Quando la casti puoi scegliere quale delle due prendere e tutti gli effetti che si applicano a una o all'altra si applicano anche a quello. Miff ti fa, li prenderai. A vita? Non lo so, però hai avuto le convulsioni prima. Non mi sentivo a mio agio a somministrartelo. No, qua, ragazzi, Adone torna a piangere. Scusate, viene da piangere, a me non lo faccio perché mi contengo, ma quando appena gli dici sta cosa, Adone scoppia a piangere. Possiamo uscire da questo posto? Per favore. Ottimo, sì. Perfetto. Caricati, Adone. No, datemi un secondo. Assolutamente no, tu non rimani qui da solo. No. Non obbligarmi a addormentarti di nuovo. Riesce a camminare? Sì, Adone in silenzio si alza, tiene la testa mogia e rimane al fianco di Nivel. Ne hai 8 di sonniferi. Ne hai 4 di sonniferi. Ne ho! Ne hai 4 di sonniferi. Faccio chiudi fila e accompagno Done verso l'uscita. Abianic, mi copi il testo di sì. The Ward nel commentino. Mandarti lo screenshot. Sì, perché ho copiato il nome a Manella e poi ho detto no, non sto a copiare la spell a Manella. Ho messo proprio tutto. Possiamo ritornare a riposare, anche se secondo me dopo questa io non riuscirò più a dormire. Mai più. Ah, ti manca una cibia, Anistro. Cioè, con entro su di sé, immagino sia centro su di sé. Nel testo. Di... E io dico ad Adone, rimanendo un po' indietro rispetto agli altri, ero serio prima. Se ti senti di non essere Adone, non ha senso che continui con questa farsa. Se sei un'altra persona, comportati come un'altra persona. Adone rimane un attimo in silenzio e poi lo vedi che annuisce col capo. Fai fatica a vedergli il viso, ma semplicemente per il fatto che tiene la testa bassa, c'ha i capelli lunghi, un po' gli si copre il viso. Però vedi che annuisce. A mia figlia, quando facevo una domanda, mi aspettavo una risposta con la voce. Oh no. Adone ci mette un attimo, dice... D'accordo. E gli faccio così sui capelli. E non dice niente, vi segue dovunque voi andiate. Dove andate? E mi chiudo tutte le porte dietro. Esatto, cioè il portone della chiesa del tempio non lo sai chiudere. Cioè, puoi tirarle, ma non puoi attivare il meccanismo. Tiro e basta. Posso chiuderlo io? E non credo che tu sappia farlo. Ok. Non è magico, è proprio un meccanismo strano. Devi tirare delle leve strane. Con un ma certo ordine. Siete bravissimo con i meccanismi. Vuoi provare con tecnologia? No, non lo farò. Aspetta. Renaf. Io posso fare manomettere. Tipo, io c'ho manomettere 5. Vogliamo rompere questa porta una volta per tutte. No, vabbè, non. Già gli abbiamo dato abbastanza da lavorare con tutte queste anomalie. E sono stronzo che le deve scrivere a mano tutte. Chiedo lieto, che sezione del tempio è questa? Cosa? Che sezione del tempio è questa? Quella da cui siamo usciti. Ah. O è il tempio? Come funziona? Il centro, siamo usciti dal tempio, ma siamo usciti, la porta da cui che stavi proteggendo è il centro del tempio, è il macchinario con cui trovano e segnano le anomalie. Okay. Accompagnate Adone, vado da Delph. E vado a cercare. Che mi dispiace per quel povero Cristo che deve segnare le prossime cose. Vado ad Adelfo a cercarlo per dirgli di avvisare di chiudere la porta. Adelfo stava dormendo, però quando Bussi si sveglia di soprassalto, arriva alla porta della sua celletta. Che è successo? Sono venuto ad ammazzarti, Adelfo. Cosa? Come? Sto scherzando, devi chiudermi una porta. È il mio metodo per... Lascia perdere, c'è una porta chiusa, se puoi chiuderla per favore. Vado subito. Os, appena ti vedo ti bacio in bocca, appassionatamente. È stata la merda più bella del mondo. E sospiro, tipo, metto la mano sulle tempie, mi sta venendo mal di testa. E non ho neanche bevuto ieri sera. La porta, e poi mentre lui si avvicina alla porta per l'entrata del centro del tempio, c'è un meccanismo, non so come funziona, se puoi chiuderlo per metterlo in sicurezza. Avete aperto il centro del tempio? Quello è chiuso. Il centro dentro è chiuso, non abbiamo fatto niente. La porta per raggiungerlo è aperta, meglio chiuderlo. E esce dal corridoio. E poi torno dagli altri. Suppongo abbiate visto Adelfa che passava di lì. Sì, sì, sì. E vi dico, gli ho detto di andare a chiudere la porta. Non dovrebbe esserci problemi, spero. Mi date un attimo. Sì, un attimo, ok, grazie. Va, va, va. Janic, dimmi. Io ti odio. Io ti uccido con le mie mani. Non capisco perché. Non è un bug, è intended behavior. No, ho realizzato che quindi la la promessa non era la promessa, ma era l'uomo che ride. Non ho capito un cazzo di quello che hai detto. No, Adone, quando ha parlato con sua madre, non era veramente sua madre, era l'uomo che ride. L'uomo la promessa che ride. Tu l'hai visto due volte. Di persona lo hai visto due volte. L'uomo no, che ok, ride. Ma prima non dicendo era mai l'uomo che ride. Ah, quindi era veramente sua madre. Ah, ok. Non ho detto che era tua madre, però sicuramente non era l'uomo che ride. Domande, come Adone, basta fare domande. Dove eravamo rimasti? E dove l'abbiamo lasciati, quindi è passato Adelfo per andare a chiudere la porta e voi siete nelle cellette. Mif si rivolge verso Lieto e fa: tu che non puoi dormire, cioè che puoi fare a meno di dormire, stagli la guardia fuori. Adone, tu oggi prenderai un sonnifero. Non mi interessa se non ti sveglierai la mattina. Ti prendiamo, ti portiamo giù, ti prendo un sonnifero oggi. Adone annuisce senza dire nulla. Non lo vedi proprio. Sì, sì. È un foglio di carta. Mif si gira verso dietro e fa: è così avere dei figli, non li voglio avere. Si gira dall'altra parte, entra in camera sua, chiude la porta, va a dormire. Adone, I guess, va nella propria camera e prende dei sonniferi, si mette a letto. Io vado... Dietro tu entri nella camera con Adone? Non penso ci stia. Non mi serve, cioè nel senso, sto davanti. Visto c'è molto altro posto per andare. Sì, sì. Io vado da Lieto e dico: come stai? Bene, finalmente la direzione è chiara. Usare quel potere non ha avuto conseguenze su di te? Ho imparato una nuova magia. L'hai vista che la usava? Posso fermare il tempo. Non hai avuto contraccolpi o cose del genere, spero. No. So da dove vengono i libri adesso. Libri blu. E altri. Suppongo che tu non possa parlarne. Meglio così. Evitiamo qualsiasi possibilità dell'uomo che ride di dei libri. In realtà non penso sia grande problema parlarne. I libri sono la forma con cui l'uomo che ride tortura la divinità, costringe a fare azioni conto suo, cioè per conto di chi utilizza il tipo. Quindi e quello blu nello specifico è la tortura di Arva. Quindi il fatto che ci vadano di mezzo le persone è soltanto una conseguenza delle sue azioni, non sono intese per andare verso di loro, ma verso gli dei. C'è un fine in questa cosa, e il fine è quello di aprire la breccia che hai visto prima e probabilmente di mangiarci tu. Allora hai fatto bene a evitare che possa succedere. Se dovessi vedere un libro, fammelo sapere. E tienitela alla larga. Sì. Suppongo che se dovessimo ritrovarci in un'altra situazione del genere, tu non possa farlo di nuovo, vero? No, penso che la mia quantità di fortuna con Arva sia terminata. Allora staremo più attenti ed eviteremo che succeda una seconda volta. You can now pray to Arva. Nel senso che se lo faccio... No. Se lo fai adesso, lui è razionale, composto e tranquillo. E può rispondere alle tue domande, ma non c'è molto altro da che ti può dire oltre a quello che ti ha già detto. È vestito o è ancora nudo? Da petto nudo, però ha i pantaloni. Ah, una domanda per Arva ce l'ho. Fermi, era nudo prima? Completamente? Come Cronos. Esatto. Un uomo della sua epoca. E io ho una domanda per Arva che mi sono dimenticato. Questo era quello che è successo quando Cronos ci ha riportato nel tempio? No. Ok. Anche tu ti sei messo a parlare da solo? Pagando con Arva, devi darmi un attimo. Non sono ancora pratico di questa cosa. C'è un po' di interferenza nel canale. Non è una scienza esatta. Siete tutti pazzi. E ritorno alla mia stanza. Arva ti continua la spiegazione. Nel futuro che ha visto Cronos, insieme a lui siete andati a combattere direttamente contro la centrale di Apeira, perché lì c'era la Mukelos, e in qualche modo, grazie ai poteri di Cronos, avete scoperto prima del tempo le problematiche legate a loro due. E una cosa tira l'altra. Loro due chi? La Mukelos e Nibel. Ah, ok. Una cosa tira l'altra e avete raggiunto il futuro che ha visto lui. Che ora, come avrai intuito, sta fuggendo verso la Nadiria. Grazie. Volete andare tutti a riposare? Lieto fare la guardia da brava statuina. Mi tolgo una dose. Sì, e ora fate il full recover completo di tutti. Non avete segnato esperienza, vero? No. E io ho segnato due utilizzi di... Devo fare tre utilizzi di oneromanzi. Tu guadagni l'esperienza per un uso di oneromanzi. Gli altri sono tipo i recast della stessa spell. Cioè paghi il mana ma non guadagni l'esperienza. Scusami, com'è che prendevamo l'esperienza? Cos'era? Uno più il giallo? Più viola. Uno più viola, ok. Sì. Tu hai castato. Alla fine della fiera hai castato solo Absorperiul. Perché gli altri sono stati tutti cancellati. Beh, un Future Glimpse però l'ho castato almeno uno. Cioè, uno è quello sono che d'accordo. Mi ha fatto vedere. Sono d'accordo. Guadagni 8 a teurgia. Ok, segni tu? Sì, sali di livello. Sali di livello di teurgia, va a 2. Ika, avevi segnato tu o segno io? No, mi sono sbagliato perché mi sono dimenticato che avevamo aggiornato le regole. Ontica era 1. Era sì, a 1. Puoi scegliere. E ho usato due Asten. No, un Asten, uno l'hai cancellato. Ok, quindi sarebbe così è come era prima. Così. Hai un Asten e un Emperor, quindi ok. Emperor puoi scegliere stare più 3 a teurgia o a ontica, la scelta. Hai detto viola, insomma. Sì, 2 però più 1, quindi 3 totale. Ok. E vabbè, quindi metto 10, quindi è 1 questo, vado a 0 e prendo 1 di teologia, no? Sì. No, 2, correct. Ma quanto era, scusa? È a 7. Ah, no, sale a 20 la seconda volta, scusa. Cioè, la prima volta sali quando raggiungi 10, la seconda volta quando raggiungi 20, la terza volta quando raggiungi 30. Ok, quindi questo è 1? Sì. Okay. E l'altra su Ontica. Vai. Ci sono altri 3 su Ontica. Sì, sì, sì. Ok, abbiamo finito tutta sta roba qua. Sì. Vai. Assumendo che Adore non torni indietro a riaprire la cazzo di porta. No, è out dopo un sonnifero. Ha preso un sonnifero. No, no, dico, da qui in poi avete evitato il bad ending di Adone. Wow. Assumiamo che poi tu non torni mai più a fare questa cagata, a distruggere l'universo. Per il bad ending di tutti quanti, cioè, no, di Adone. Quello causato da Adone. Ah, ok. Adesso è veramente un bucio vuoto. Madonna. Perfetto, quindi non tornerai mai più lì. Guadagnate tutti 5 punti esperienza. Ve li segno io. Ok. Ci stiamo avvicinando lentamente al vero ending. 5 punti. A Grifondoro. 5 punti. Li hai già messi tu i punti? Sì. Questi? Sì. Okay. Ansia. Ok. Ah, e lieto, puoi ottenere il terzo livello da Chronomancer. Ti mancano i punti per ottenerlo, però da ora in poi ce l'hai sbloccato. Ti mando cosa fa. Ok. Eh sì, esatto. Non era parte della tua memoria, era parte di far rinsavire Arva. Quindi, cioè, l'hai fatto per caso. Vabbè, una delle due parti è la spell che te l'ho data come premio per la cosa. Uh-huh. E l'altra è questa passiva che ti ti mando lo screenshot, faccio prima. Sono pigro. Basta. E se non avete altre cose da fare, potete distribuire eventuali punti che avete hang around, potete prendere livelli se ce li avete, non credo nessuno di voi ne abbia, perché avete 30 punti e siete a livello 6, quindi direi di no. Non penso che tu mi abbia dato punti. Sì, io sei di 34 e eri a 29. Che faccio control Z. Ah, l'XP counter stavo guardando, ok. Sì. Ok, ok, ok. Ok, sì sì, punti statistica non avete preso, non so, sono là quel lato. Al mattino dopo siete full tutto. Ok, quindi anche quelli che non erano full sono full tutto. Appena diventerà rilevante sta cosa la facciamo per bene. Ok. E vabbè, dai, la versione veloce la sto già facendo, cioè quella di mettere i punti vita. Dovrei aver segnato tutto. Ok, ora è effettivamente il mattino. C'è uno spiraglio di luce che filtra da sotto alle porticine delle cellette e lentamente, con i vostri tempi, vi svegliate Mif e Nibel, quando vi sentite. Lieto, non hai dormito, hai pregato, slash, fatto quello che volevi nel frattempo, e Adone, sei rimasto in un lungo sonno senza sogni. Ma c'ho gli occhi chiusi veramente. Sì. Proprio io. Sì. Adone. Non c'ho. No. Long dreamless sleep. Adone, credo che finché non gli suonate, non lo chiamate, rimane lì. Esatto. Quindi gli altri due. Lieto fa la sveglia. Apre la porta, esci. Oh, dai. Arriva la luce in faccia. Ti tira tipo su dal coso e ti mette in piedi. Tipo... Lasciami stare, per favore, è stata una notte difficile, ok? Ti schizza l'acqua in faccia. Dove l'hai trovata? Lo ginerà. Vuoi il secchio di lava? Pisci l'acqua o la lava? Io ce l'ho. Minecraft type shit. Sì. Ah, ok. È arrivato il gatto, visto. Sì. L'uomo che ride. Esatto. Perfetto, un attimo. Il gatto che ride. Ok, ci sono. E Mix che tipo fa? Sì, chiudi la porta che mi vesto. esci dalla mia stanza. Ma vabbè, I guess. Grazie. L'avevo già vista nuda, che problema c'era? Live ad reaction. Mi like. Mi si veste, visto che c'è un pochino più di freschino, si mette il gilet, si sistema, stiamo un attimo di capirli, esce e fa, non svegliarmi più così, per favore. Ok, a posto. Non vedo l'ora di andarmene via da questo posto, quando è che partiamo? E anche adesso, abbiamo letteralmente tutto quello che volevamo. Sì. Teneva tone che volevamo dire, però, cioè, vabbè. Bene, allora direi che svegliamo Nibel si fa carico di Adone e avvisiamo chi dobbiamo avvisare della nostra partenza. Lentamente anche gli altri monaci, gli altri fratelli si stanno svegliando. Ottimo. Svegliamo anche Nibel. Sì, Nibel era già sveglio da 5 minuti più o meno. Come prima, è seduto sul letto. Sta guardando un punto fisso sul muro. Sente bussare, dice: sì, sono sveglio. Facciamo colazione, poi ce ne andiamo da questo posto sciagurato. Mi sembra una buona idea. L'altra volta avevamo preparato dei piatti del cibo di sotto, quindi forse c'è qualcosa del genere. Esatto, dopo abbiamo di sotto. Anche Cici, che avete dimenticato esistesse? No, io me ne sono ricordato prima, ero lì. Okay. Ciao Cici. In realtà no, sono lasciata dormire Cici, tipo... Sì. Anche lei è sveglia, e anche Irumaru è sveglio, e nello specifico sta picchiettando sulla giara. Mi fa ah no, giusto, c'è la cosa. Ti chiedo scusa, Romaro, gli do un pezzetto di carne, tolgo un altro pezzo di carne dall'inventario. Vedi che ci sono due palline nere che galleggiano sulla sua giara. Come stai, Romaro? Bene. Bene, bene, bravo bambino. Mi devo mangiare la carne umana avanzata. Cioè l'acqua lì dentro che è un disastro, cioè. No, in realtà ormai l'ha pulita, perché si nutre dello sporco, quindi la filtra. Hai bisogno che ti cambiamo l'acqua? Sì, mi serve più sporca. Ok, non ti serve ossigeno, però, per dirci, cioè... No. Ok. Cos'è l'ossigeno? Non so, ok, vabbè. Ok, quando se troviamo dell'acqua sporca... Okay. Aspetta giù. E Cici vi fa un cenno. Vi vede strani. E dice: mi sono persa qualcosa? No, Cici. No. Lieto si avvicina e le sciorina tutta la storia. Gli fa il lordo a Cici. Davanti tipo alla colazione. Cioè, Miss tipo non lo può soffocare. C'è Cici che è veramente il meme del tizio grasso con gli occhi lucidi. She just looks at you like that. Cici, io penso che abbia sognato dietro, perché io non mi ricordo niente di tutto ciò. Tu, Nibel, ti ricordi qualcosa di questo genere? No. Vedi, quindi penso... Avete lasciato Adone a letto? Domanda giusto per me, che fate colazione. Siamo lì nel corridoio al momento. Pensavo scusa. Sì, no, colazione non ho detto così bene. Lieto avrebbe iniziato in quel momento. Sì, a raccontare. Okay. No, sarebbe stato mega divertente. Sì, sì. No, Adone viene tenuto sotto stretta sorveglianza fino al momento giusto. Esatto. Aveva busso sulla porta di Adone. E non ti risponde. Ha preso un sonnifero, Nibel. Quindi non si sveglierà. Chi rimane qua? No, lui viene con noi. Ce l'ho, apro la porta, guardo se Adone è dentro. Adone è dentro. Adone è da... Allora, i letti sono al centro o contro un lato? È un pagliericcio che occupa quasi tutto lo spazio della celletta. Bon, tu lo vedi comunque spiaccicato contro il muro, tutto rannicchiato. Che chiude la porta, è ancora dentro. Benissimo. Non ha preso tardi il sonnifero, quindi in realtà possiamo andare a mangiare senza problemi. Ci fidiamo? Franco per il cazzo. Se scende lo vediamo che scende. È la stessa strada. Ti porto la scodella qua, tu stai davanti e non fai uscire Adone dalla stanza. Oh, guarda, okay. Cici, che non c'entra nulla. La prima cosa che fa, dagli una botta in testa e ti tiro a letto. Ho la meridiana. Cici, ormai ne abbiamo passate tante insieme. Penso sia arrivato il momento di raccontarci un po' più di noi, quindi ci terrei se mi raccontassi delle tue umili origini. Visto che lo stai menzionando, avevo tutta l'intenzione di rimanere un po' in questo tempio finché non si chetano le acque. Mm. Sembra un'ottima idea, Cici. E noi che pensavamo... scrive un sacco di roba domani mattina. Noi che pensavamo di tornare a Desbosan e poi ripartire. Ma c'è l'impero, c'è pieno di gente che mi vuole fare la pelle. Però noi abbiamo un nostro collaboratore dall'altra parte dell'isola con una barca pronta per potercene andare. Ti guarda seria adesso e dice: potresti promettermi che la mia vita non è in pericolo? No. No, non posso prometterlo. Sono già morta due volte questa settimana. Farò di tutto per evitare che non avvenga la terza. Partirete nel pomeriggio, tanto. Ci penso. Sì, è tutto il tempo. Faccio la guardia ad Adore, andate pure. Ok. Ti ringrazio. Poi... apro il passo e comincio ad andare giù per andare a fare colazione. Quando scendete per le scale, la prima cosa che vedete è che c'è un uomo vestito di bianco, con i capelli corti, in piedi davanti alla porta principale del tempio, che regge davanti a sé un libro nero ed è perfettamente immobile, con lo sguardo fisso sul libro. No. Lieto, noti che effettivamente Nibel aveva mandato di sotto ad Elfo a chiudere la porta e ad Elfo non è mai più tornato. No, ragazzi. Oh, hell no. Questo davanti a noi chi è? È uno dei monaci. Sembra proprio ad Elfo. Ad Elfo ha un libro nero in mano, corretto? Sì. Gli sparo. Ad Adelfo? Sì. No. Facendo dietro, non puoi sparargli, distruggi il libro, non sparargli. Perché puoi sparare? Tipo, lui è davanti alla porta, cioè non quella esterna, sì, sì, altrimenti non lo vedreste dalle scale. Vabbè, Adelfo. Lieto tipo sfodera la pistola e guardo tipo Adelfo. Quello probabilmente è un altro regalo dell'uomo che ride. Dovremmo toglierglielo e anche togliere lui a questo punto. Sotto questa logica dovremmo toglierci tutti e possiamo anche evitare di farlo, no? Mi avvicino ad Adelfo. Dovete finire di scendere le scale. Okay. Adelfo è sveglio, ha gli occhi aperti fissi contro il libro, lo tiene. Aspetta che cerco. Oh no, non è del colore giusto. Ok, quell'altro. Adelfo. Non si muove, non reagisce neanche alle parole. Respira. Cioè lo vedi respirare, ma non risponde alle tue cose, alle tue domande. Cioè, alla tua prima domanda che gli hai fatto. Ok, metto giù la borsa, mi tolgo la giacca e tipo metto la giacca sul braccio dove c'è il libro per coprirlo praticamente, poi tolgo cerco di togliere il libro di mano usando la giacca praticamente. Riesce effettivamente a toglierlo e lui dice: avevo troppa paura che muovendomi... E non finisce la frase. Te l'ha dato il libro. Un uomo alto, vestito di nero. Già. Cosa ti ha chiesto? Cambio. Nulla. Hai aperto il libro? No. Ma era aperto. No, era... Ha chiuso, te l'ho fatto vedere com'era. Ce l'ho fatta vedere. Che no, non sei andato giù, vero? Non ho fatto nient'altro. Appena ho chiuso la porta, quella persona mi ha dato il libro e avevo troppa paura per muovermi. Io guardo Miff e dico: vai, scusa, finisci. Che i miei sentimenti erano interessanti. E che lì dentro avrei trovato un buon modo per usare la mia paura. Questo, se non ti spiace, prendiamo noi, Potete fare quello. C'è la Nibel, no? Sì. Guardo Miff e dico: è al sicuro ora? Chi? Ho leccato, scusate. Guardo te e ti chiedo: è al sicuro ora? Il libro. No, Adelfo, okay. Dico, cioè, gli ho tolto il libro, quindi dico a Miff: è al sicuro ora, Adelfo? Miff si gira verso lì, penso di sì. Non penso che Adelfo sarà mai al sicuro a questo punto. Infatti, quell'entità non è esattamente qualcosa di positivo. Ce l'avete detto anche voi. Il polpo delle biblioteche. L'uomo che ride. Avrei bisogno di parlare con chi comanda qui. Noi... c'è bisogno di sigillare ancora più sicuro questa parte del tempio. Non c'è uno che comanda tra di noi, siamo tutti fratelli. Io sono tra i più inesperti perché sono qui da poco. So farvi parlare con i fratelli che sanno di più, ma non penso sapranno risolvere questa cosa. Facendo a una delle donne che stanno scendendo, che si avvicina e dice: quale sarebbe il problema? L'uomo che ride è libero. La porta non era sigillata a dovere, immagino. Come avete fatto a manomettere il meccanismo? Con una magia del tempo. Ha senso. Gli scribi oggi avranno molto da fare. Non dovete preoccuparvi. Non ci sono altri pericoli. Neanche per lui? Indico Delph. Se non tradirà il nostro ordine, no. Non l'ha fatto. Non si è mosso più di quello che doveva muoversi. Come raccomandano le scritture? Firmano un contratto? No. No. Che libro gli è stato dato? Do la giacca con dentro il libro. Tipo. La sorella prende la giacca, estrae il libro, lo guarda. Utopur. Chi è? Devo vedere un attimo se loro lo sanno. Cioè, se sanno a che livello di dettaglio lo sanno, perché non me lo ricordo. c'è Birio? Niente, ha nome buffo. No. Ok, ce l'ho, ci sono. Non sappiamo di preciso cosa siano, ma non sono divinità, non sono come il polpo, non sono come nient'altro. Alcuni in certe parti del mondo li venerano come dei. Ok. I libri? I libri sono praticamente dei breviari per pregare insieme a loro, per chi crede in queste cose. Ok. È possibile spaccarlo? Cioè, so che siete molto... Insomma, volete... Ne avete un sacco di libri dentro. Appunto, no, non è un libro. Cioè, sì, è un libro pericoloso. Non mi sento di aprirlo, però la carta di cui è fatto è carta e il rivestimento di cuoio di cui è fatto è cuoio. Sì, come... è la reazione che avrà questo libro con l'ambiente che non va bene. E abbiamo già bruciato uno, Mif. E ci è stato detto che non serve un cazzo per Charlie, tra l'altro. Chi ve l'ha detto? Distruggere fisicamente al concetto, se non mi ricordo. Chi è che l'ha detto? Ora? Non l'ho detto, non mi ricordo. Mi ricordo se ora o direttamente l'uomo che ride. Se non l'ha detto qualcuno di questa cosa. Pensate che quello che li crea abbia dei vantaggi a dirvi la verità? No. No. C'è ragione, diamogli fuoco nel dubbio. So dell'esistenza di uno di questi libri ignifugo, ma non ha il colore giusto. Diamogli fuoco, perfetto. Dito. La sorella lo appoggia per terra. E mentre stai per castare la tua spell, se la vuoi castare o fare quello che vuoi, lei mormora. È quasi un peccato non sapere cosa contenga. Tipo la palla di fuoco, tipo... No. No. Incenerisci il libro insieme a una macchia di erba intorno e rimane solo la cenere. Vado a segnarmi del mana speso. Evoca la lava per sciogliere la cenere. Poi do la cenere in pasto a ora a Stella Marina. Sì, sporchiamo l'acqua. Gli sporchiamo l'acqua. Poi do da mangiare la Stella Marina a un pesce. Così via. Vabbè. La donna... Momento Censu Ben. Così, scusate. La donna vi fa un cenno e dice: credo che il macchinario si sia attivato a dovere stanotte. È necessario che qualcuno si occupi di trascrivere il tutto. E sparisce dentro al tempio. Oddio. Vogliamo mangiare in velocità e andarcene da questo posto? Ti prego. Incominciate ad andare troppo poco arrivo. Ok. Mif va. Mormora dietro. Certo potevi svegliarmi in un'altra maniera. Nuda, che cazzo volevo? Dopo che se ne vanno, guardo l'elfo e dico... non immaginavo sarebbe successo quello che è successo, ti chiedo scusa. No, non è colpa tua. Però ti ringrazio anche. Sarebbe potuto succedere qualcosa di molto brutto. Infatti è meglio a me che a qualcun altro. Io sapevo di non dover fare nulla. Bene. E di perché lo sapesse? No, non credo lo farebbe. anche perché lui ha detto che era tipo nelle scritture di dover rimanere fermi. Quindi, cioè, penso sia semplicemente la prassi. Ok, raggiungerò gli altri allora. Io per oggi credo che mi limiterò a stare sul prato e a meditare. Buona idea. Se potessi lo farei anch'io. In bocca al lupo per la tua crociata. Cioè, incamminarmi... Aspetta. Sì, scusati. No, mentre ti cammini ti prende per una manica. E, cioè, è la prima volta che si muove da quando l'avete visto, perché era rimasto perfettamente immobile tutto il tempo. Dagli un pugno a quella stronza della mucca e lo so anche da parte mia. Oh. Sarà fatto. Ti fa un cenno e... va sul prato. Sì. Nibbe quando si allontana e non so se c'è un angolo o roba del genere, gira l'angolo quando vede che non lo vede più nessuno e comincia a tossire. Tossisce, sguarda la mano, c'è del sangue e dei pezzi di fungo e si ributta a terra, si pulisce il guanto e dice: mi rimane poco. E si dirige verso gli altri. Mangiate, vi riprendete e vi riunite. Cici è seduta sugli scalini della scalinata di metallo, mentre voi siete in piedi alle sue spalle, e sta picchiettando per terra. Ciotola di cibo per Cici. Sì, ha già mangiato. Niente ciotola di cibo per Cici. E devo andare a contornare Adone di nuovo? Io pensavo sì. L'aveste già svegliato, chiamato, ditemi voi. Sì, fate pure. Cioè, Cici è lì che aspetta, esatto. Intanto che... Fate esatto. Pure. Miff si avvicina a lei e fa... Quindi hai scelto... Molta paura. Non si è sentito bene. Ho molta paura. Mi fa tipo un sorriso amaro e la guarda e fa: neanche questo è un posto così sicuro come credi. Lei ti guarda e dice: sei mai morta? Vicina, morto no. È strano quando succede. I miei genitori mi raccontavano che, secondo la nostra cultura, la nostra tradizione, le anime tornano dal luogo in cui sono state fatte alla morte e si riuniscono con i nostri antenati e rimangono insieme a loro fino alla fine dei tempi. Eppure le due volte che sono morta non è stato così. È stato solo buio. Per un istante ho visto la corte di Herioth e Dauti. E poi l'oscurità. Finché non mi sono svegliata di nuovo. Penso che le persone mortali, noi umani, cerchiamo di raccontare delle cose per rancorarci di quello che succederà poi. È un modo di sperare. È un modo di andare avanti e di ignorare qualcosa di molto più buio e tetro di quello che è. L'unica cosa che ho capito da questo viaggio, da questa esperienza, è che non voglio morire. L'aspetto di Dauti può essere inquietante. Quello di Erez non so come si è fatto. Ma di certo le statue che la ritraggono non sono le più accoglienti. Non ho visto gli dèi quando sono morta. Ho visto solo la reggia. Filtro addosso. La nebbia. E quello che mi sento di dirti è di cercare comunque in ogni caso la tua strada, non farti ostacolare da queste cose. Pensi che la mia strada sia con voi? Magari un pezzo. Mi rolli persuasione. Ah, allora, un D10, ho fatto 8 persuadere o più 6. 14. 10. Ci sono. Non l'abbiamo perso. Si tira in piedi. Guarda la lancia che le avete regalato. Forse sono destinato ad essere un'arma. Verrò con voi. Ma non aspettatevi che sia particolarmente fedele. Fino alle cose si mettono male me ne andrò. E avrei tutto il diritto di farlo. Annuisci. E niente, come svegliata Adone? Io penso che Adone sia da prendere e da mettere come sacco di patate su Miller. No, no, se lo svegliate si sveglia. Cioè, se lo svegliate come sostiene, come suggeriva lieto, funziona. Ok. Adone, vieni svegliato da lieto, in maniera educata. Come vengo svegliato? A schiaffi e spintoni. Io? E te al lieto. Cioè... Beh, mi tiri gli schiaffi veramente? Sì. E cioè, mi fai finire il mondo 2 minuti fa, che cazzo vuoi? Ma no, io Sirio posso reagire. Ah, con la gatta ho qualcosa di bello. L'ho fatto. Adone, dopo il primo schiaffo direi che si sveglia. Dopo il secondo. Dietro vede che sei sveglio. E ci aggiunge un pugno sul naso, tipo. Beh, Adone lo lascia fare e dopo si alza ed esce dalla stanza. Scusate, ma sono distratto dal gatto. Anch'io. Al sangue che gli cola dal naso. No, I no, guess. No, non te l'ha tirato così forte. Ah, okay. Ti ho fatto del male, ma non... Non ho rotto niente. E ad uno rimane lì fermo, vi guardo. Siete voi tre? Gli hombres. È il momento di andarcene da questo posto, decisamente. Il più velocemente possibile. Ok. Andiamo. Cioè, usciamo dal tempio, scendiamo dalla cosa. I monaci che vi stanno vicini vi salutano sommariamente. Adelfo, che è sdraiato nel prato con le braccia aperte, vi fa un cenno col braccio e continua a guardare l'immenso. Io becco uno dei monaci, tipo, se o quello con cui abbiamo parlato il giorno prima, o la tizia con cui abbiamo visto prima, e dico: tenete d'occhio Adelfo. Potrebbe esserci il rischio che non agirà di sua iniziativa. Se un'anomalia ha avuto effetto su di lui, lo percepiremo entro la serata e prenderemo provvedimenti. Bene. Sembra che tu Grazie. Non abbia paura che lui muoia. Era così fino a ieri, non sono più sicuro che valga anche per oggi. Cercheremo di proteggerlo come qualunque dei nostri fratelli. Vi ringrazio per l'ospitalità. I dei del tempo e i loro amici sono sempre benvenuti qua. Andiamo? Andiamo. Tra poco finiamo, giuro. Devo andare avanti quanto vuoi. Sì, infatti. Vedete... Oddio, ce l'ho scritta sta storia, mi sa. Raggiungete nuovamente il fiume Tomi. dopo aver superato l'anomalia temporale, che scoprite essere larga tipo 15 metri. Ah. La cosa dove avete passato un sacco di tempo era tipo da qui a lì. Vabbè, proseguendo quanto vuoi. Esatto. No, ma ce l'avevi detto. Scusami un attimo, noi quando ci approcciamo a questa anomalia, cioè vediamo solo la nebbia o vediamo l'illusione che nascondeva? Dall'altro lato si vede che c'è un percorso. E okay. Oltre a questo percorso ci sono dei muri invisibili che da questo lato sono visibili come, e se ci sbatti contro entri in un time loop. Ok. Beh, lo avevi capito, lo hai intuito, mm-hmm. Non c'è scritto nessuna parte. Tra l'altro adesso il buon Lieto e il buon Adone vedono i muri anche dall'altro lato, quindi potete tornare quando volete. No. Già. Che paura. Superate questa cosa, raggiungete la sorgente del fiume e lentamente, passo dopo passo, sulla strada in discesa, ripercorrete la strada dell'andata, la tomba di Pseudo Celso, il rudere dove dimora lo strano cane gigante e infine il bosco Gabadogu, dove avete incontrato la scimmia. Sembra più tranquillo dall'ultima volta, con meno cinguettii e fruscii. Sembra più vuoto anche dell'altra volta, senza la scimmia, le sue monetine, senza tutte le cose che avete incontrato. Alla vostra destra c'è una zona incendiata di fresco, le fiamme sono arrivate quasi fino al fiume. Sulle ceneri degli alberi sembrano esserci alcune caprette che saltellano, senza timore di predatori e senza alcuna cura per voi umani. Ma ignorate le caprette, immagino. Perfetto. Mi do messo di tempo fa. Esatto. Il cuore di Dio. Proseguite ancora fino ad avvicinarvi al punto in cui avete sommariamente sepolto il Magister Magi. Anche da molto lontano vedete chiaramente un campo imperiale eretto probabilmente nella notte con l'alchimia, fin troppo sorvegliato. Siete a un passo dalla città di Esboson. Non passate ore, cioè non passate un'ora e mezza, due ore. Tra voi e la periferia della città c'è un ultimo ostacolo. Una donna vestita di nero. Vi ricordo che è il 24 ottobre 1622, ultima settimana di ottobre. Non sembra avervi notato, anche perché siete nella boscaglia, capito? Quindi siete... Cioè voi vedete bene il campo che avete davanti, gli outskirt della città, ma dagli outskirt siete nella macchia, non si vede niente da voi. Non sembra avervi notato e sta fissando l'orizzonte. Forse guarda Senec, forse guarda il mare. Con lei ha una grossa borsa di pelle scura, apparentemente piena fino all'orlo, e fra le mani stringe una cosa che, fresco da quello che avete appena visto, riconoscete come il libro azzurro. Vi chiedo a tutti e quattro cosa volete fare. Vi dico già che Cici è leggermente dietro di voi, cioè più della coda, e non farà nulla, cioè è immobile, anzi mezza inginocchiata fra le fronde per non farsi vedere. Ma la riconosciamo? Se volete fare un roll vi posso rispondere, altrimenti ditemi voi se vi ricorda qualcuno. Dietro, no. Dietro la riconosce. Dietro. Io direi di dietro sopra. No. Se ti devo dire chi è, no, non la riconosci. Se hai capito chi è, sì, la riconosci. Realisticamente Nibel non ha mai visto questa donna. Beh, io già vi dico che Adone non farà assolutamente nulla. Perfetto, e ne abbiamo due immobili. Dietro si avvicina e dà un bel colpo di tosse. Sì, tipo a 50-60 metri di distanza, eh. Prima che Lieto faccia questa cosa, Mif e Nibel, volete fare dell'altro? Ma vedo che fa dei primi passi, Lieto, dico. Lieto? La conosci? Una buona teoria su chi possa essere. Mi devo preparare delle magie? Non lo so. Potrebbe... Potremmo poter... poterci parlare. non lo sapremo finché non ci parleremo comunque. E tipo si gira verso Nibel e fa: lo scettro non prenderò nessuna chance se le cose vanno male. Passo lo scettro. A posto, inizio. Io prendo una moneta di Apeira, ma la infilo dentro il guanto. Okay. Per non sapere né leggere né scrivere. Guanto che comunque è rimasto insanguinato, quindi si vede nel palmo che è insanguinato. No. Okay. Ciao, Sara. Andiamo, sì, lì ci sono. Esce fuori a parlare, quindi? Sì. Sì, beh, penso tutti un po' indietro, però immagino a range abbastanza per poter testare questa donna. La donna, sentendo tossire, si gira e ha un'espressione corrugata. Ti vede e l'espressione fa tutto lo spettro delle emozioni umane, dalla sorpresa, felicità, rabbia, furia. Cosa cazzo fai qua? Una cosa ti ho chiesto, una! Ciao per noi. Chiamami mamma. Questa è l'ultima cosa che farò nella mia vita, probabilmente. Cristo. Quello è un libro interessante, lo posso vedere? Allungo la mano. Com'è? Quello è un libro interessante. Che cosa stai leggendo? E allungo la mano. Lo hai già visto tante volte. Ti consiglio di andartene. Sto per fare una cosa che potrebbe essere molto pericolosa. E casto palla di fuoco sul libro. Sei che interessante. Fammi aprire la sua scheda intanto che tu mi dici cosa devo rollare. Allora, aspetta, facciamo una. Ma volta. Perché non si può parlare in nessuna famiglia? Ma perché non si può mai discutere di una cazzo di cosa? Hai ragione. Oh, tutta questa sessione è da memare, cioè io voglio dei meme su questa sessione. Io sto lavorando. Sì, infatti, allora, lavora a pieno regime. Avrò bisogno anche di aiuto a prendere gli appunti. Sono successe talmente tante cose che non me le ricorderò tutte. Io mi sa che... Allora, cioè, il bersaglio deve resistere, ma il bersaglio è libero. Sì, sì, lo rolla lei comunque. Ok. Scusate. E... Niente, cioè, devi solo rollare per... Rollo i danni o rollo per resistere? Per resistere. Ok. Cioè, riduci i danni subiti. I danni li subisce comunque, a quanto pare. Ah, ok. Come parla di fuoco di D&D. 15. Infatti. La difficoltà era? Mente... Più 6, 11, 11, 3, 5, 8, 16, 2... entra. Entra per uno. Wow. Forse non è. Mamma mia. La palla di fuoco entra in contatto con lei e usa una reazione per castare Erebite Counterspell, che è una variante di Counterspell. Devo fare... Questo è costo. Non posso counterspellare quello, era... Counterspellare il Counterspell? Sì. In realtà poi è come, vuoi farlo? Sì, però devo capire quanto è quanto... Però la un di 10. Una vera D&D experience questa. Oh. In che momento sessioni di Elia, cazzo. Solo che qua ha senso. This won't take a chance. Quello che vedete è che dietro di lei si manifesta un toro nero. La testa di un toro nero. Che sta per mangiare la palla di fuoco e Mif la fa scoppiare. La palla di fuoco entra in contatto col libro che viene lanciato via dalla sua mano, si brucia la sua mano, aveva un guanto che viene carbonizzato e il libro a terra viene incendiato. Lei si mette a urlare, ma non è incazzata, è terrorizzata, è tipo no, non ne avrò un altro di quelli. Lieto, sai cosa hai appena fatto? Sì. Mi hai condannato a morire. Questo potrebbe essere un piccolo pezzo per la fine del mondo, madre. Verso il campo dell'impero, due figure stanno emergendo e voi siete in plain sight. Due donne, e i loro vestiti neri da militare d'alto rango e le maschere singolari tradiscono immediatamente il loro ruolo. La prima, già incontrata al gruppo, indossa una maschera nera che ricorda la testa stilizzata di un gufo, con dettagli verdi, simili alla maschera funeraria di un faraone. La seconda, invece, ha una maschera bianca da volpe, con dettagli azzurri e delle corna. La... Ci sei, Sara? Hai sentito tutto? Sì, sentivo già da prima. La mimica corporea delle due donne contraddice completamente la situazione, sebbene sembri inevitabile uno scontro. Loro due appaiono calme e tranquille, rispettose l'una dell'altra. Promezia ha una mano bruciata e se la sta tenendo e le guarda. E una delle due, quella con la maschera da gufo, inizia il discorso con: è una riunione di famiglia? Stiamo interrompendo qualcosa? No, niente di importante. Promezia, sai perché siamo qua? Se ci dai gli artefatti anomali, potremmo anche scegliere di non giustiziarti sul posto insieme a tuo figlio e a queste persone. Fa eye contact con ognuno di voi. Beh, no, ci tenevo a specificare questa cosa. Promezia cerca di nascondere la mano carbonizzata e sorridendo dice: ah, ce l'avete ancora con me dalla festa di compleanno dell'anno scorso? Pensavo fossimo amiche. Non siamo amiche! Sei una ladra, una mafiosa, una psicopatica! Calmati, Elena. La nostra amica vuole contrattare, altrimenti avrebbe già iniziato a correre, no? Esatto. Io credo che possiamo risolvere il problema del grosso pesce e un altro paio di magagne che ci sono nel mondo insieme, anche con mio figlio. Vero? No. Ci guadagneremo tutti. No. Io... Sembra che neanche più la tua famiglia ti voglia. Lasciaci i tuoi artefatti anomali ed eviteremo di uccidervi tutti. Beh, uno ce l'avete lì per terra. Lieto ha pensato bene di incenerirlo. Le due si guardano Lieto. Cosa hai fatto? Ho incenerito il libro. Questo contraddice quello che sapevamo. Possono bruciare? Non è il primo che si brucia. Neanche il secondo. Ci hanno mentito. Neanche il secondo. Non lo dice Adone, ovviamente. Evidentemente il Magister Magi cercava di nascondere qualcosa. Poco importa. Promezia, hai altre cose che ci interessano. Rendicele ora. Anzi, rendicele ora. Ti rendi conto di cosa cazzo hai rubato? Credo sia il cuore di un diavolo. O parli dell'arancia. O... È chiaro, sei piena di oggetti di valore che possono portare l'Apocalisse. L'impero non tollera che le sue fondamenta siano erette sul marcio, per cui non faremo affari con te. Io so come creare armi che non potete nemmeno immaginare e credete di poter contrattare avendo il coltello dalla parte del manico? Tu credi di potermi tradire, Lieto? Non mi sembra un tradimento. Ti avrei dato un pezzetto del regno che avrei eretto su questa cosa. Un regno eretto per volontà di qualcun altro, probabilmente. E allora è giusto che ti mostri la mia di volontà. Tira fuori entrambe le mani, anche quella carbonizzata, le congiunge e dietro di lei compaiono numerosi cerchi di luce. luce concentriche e perfettamente circolari. Io ho proposto a tutti voi una soluzione. Vi ho fatto un'offerta generosa. Sono stata gentile, ma voi non avete capito nulla. Per cui credo sia il momento di passare alle cattive. E farò affari con chi verrà a sostituirvi. E forse avrò un figlio meno stronzo. Dubito. La donna con la maschera da gufo dice all'altra: Elena, sigilla la svelta. Non posso sigillare quella merda, non è di questo mondo, non vedete di cosa cazzo sia. Ah, dimenticavo. Un piccolo saluto da Oclica. Il cielo intorno al grande campo che separa il bosco dalla città viene interamente coperto da anelli di luce, simili a quelli sulla schiena della donna vestita di nero. E da ognuno di essi viene partorito un mostro meccanico che piove dal cielo e si schianta a terra. Le loro cadute sollevano la polvere, annebbiando completamente tutta la zona. Ma la donna con la maschera da gufo non si fa colpire e dice: oh, clicca, eh? Elena, fai la stessa cosa. Cosa? Non è così che funziona. Esegui. Dannazione. Azaxarom! La donna con la maschera da gufo estrae un cristallo nero e, pronunciando la semplice formula, crea una copia esatta della magia dell'avversaria, solo nera. Il cielo stavolta si copre di anelli neri, ma invece che di una miriade di mostri metallici, scendono una manciata di persone. Le andiamo a descrivere e chiudiamo la sessione su questo cliffhanger. Un giovane, di genere indefinito, con una frangetta bionda e abiti bianchi, circondato dalle sue grandi ali piumate, candide come la neve. Fra le sue braccia porta una ragazza immobile, coi capelli spettinati e gli occhiali. Intorno a loro scendono dolcemente altre due persone, con abiti da civili dell'impero, un uomo e una donna, entrambi biondi. Poco distante, scende dal cielo anche un giovane uomo con abiti neri e strappati. Ha una sola ala nera fatta di cristalli e due falcetti stretti alle mani. I suoi capelli neri e spettinati coprono quasi interamente il suo volto. Infine, per ultimo, dal cielo, chiaramente contro la sua volontà, viene tirato giù anche un uomo dai vestiti eleganti, che tiene in braccio una donna dai capelli rossi e abiti le regali. La donna con la maschera da gufo commenta: se credevi di proliferare nel caos, Promezia, ti stiamo per dimostrare che hai torto. Fine. La prossima sessione sceglierete se combattere, nel caso da che lato stare e cosa fare, esatto.